C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto? Michele Caruso, troglodita muori. Grazie Michele Caruso, che è riuscito a imbrogliare, come ha fatto con Portobello, anche il nostro regista. Michele Caruso, troglodita muori. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. L'unica cosa è che si può sentire un forte senso di isolamento. Beh, se può farle piacere quello che stavo cercando, un po' di isolamento, perché sono lì per partorire un romanzo e quindi 5 mesi di pace sono proprio quello che ci vuole. Mi preoccupavo perché per molte persone l'isolamento e la solitudine a volte possono rappresentare un problema. Non per me. E sua moglie e suo figlio saranno contenti, pensa? Entusiasti. Sì, io vedo molto negativo. Come ha fatto a vederlo? Ma è... scusi, le carte, no? Ho messo giù le carte. Un messaggio da parte di tutte le donne, forse probabilmente anche da tutti gli uomini italiani. Basta con questi andare state a casa, andare tutto bene, queste frasi poetiche, ritorneremo ad apprezzare le cose semplici, la vita, daremo valore, ci siamo rotto il cazzo, vogliamo scopare, ci siamo rotti il cazzo, almeno personalmente penso di parlare a nome di tantissime donne italiane, vogliamo il cazzo. Cosa? Vogliamo scopare. Che voglia di cazzo, mamma mia. Quando? Let me over, let me tell you a little secret. Soon will all be done. Tu sai che uno che prende il reddito di cittadinanza deve fare 30 anni per guadagnare quello che guadagni te in un anno a non fare un cazzo? Io, a parte che lavoro, rincoglionito. E quello che ti sta a fianco? Stai tranquillo. Ma buonasera, direttore. Buonasera a lei. Lo sai o no che un coglione di merda che prende il reddito di cittadinanza deve fare 30 anni del lavoro che fai te a non fare un cazzo? E che vogliamo fare nel mondo? Vogliamo eliminare le differenze? Vogliamo fare lo stato socialista in cui tutti guadagnano più o meno? La rovina di questo stato siete proprio voi, che non fate un cazzo, guadagnate 300.000 euro a non quello fare un sbagli, cazzo e dovete anche coraggio di giudicare. Tu lavori o no? Io come cazzo faccio a lavorare in uno stato di merda così? Ma che vuol dire? Ma che lavoro fai? Quanti anni hai? Io ho 50 anni. Ho 50 anni, che professione hai? Che mestiere hai? Ho fatto di tutto, ma in questo cazzo che di stato dire? Di merda non ti fanno fare un cazzo se non sei un mafioso, un paraculato di merda. E no, mi fai girare i coglioni, scusa, ma come cazzo ti permetti? Ma io devo lavorare 30 anni per guadagnare quello che guadagni te in un anno di stronzate. Ma vai a rompere i coglioni, che è uno schifo, una merda. D'altro gli ha messo 400 milioni e le danno le banche. Sapete che le banche sono i primi usurai, che sono dei parci e dei ladri che ci rubano tutto. È ora di finirla, andate a fare il culo. Direttamente dal bunker di via Monterosa, Milano, il sottoscritto, vivo e vegeto, un po' claudicante oggi, ma vivo e vegeto, caro Davide, in diretta invece dal bunker, ovviamente costruito dal Mossad, di tutto punto, pezzo per pezzo, mattonella per mattonella, chiavistello per chiavistello, porta per porta. Ci sono anche le guardie, mi hanno detto giù, però sono invisibili. Mi hanno detto che ci sono anche le guardie a protezione del tuo bunker. Davide Parenzo, buonasera. Buonasera cari amici, buonasera. In genere facevo questa riflessione ad alta voce: le copertine in televisione servono per anticipare quali saranno i temi trattati della puntata, quello che potremmo definire il menù. Beh, in questi due minuti e mezzo sono volati più cazzi che in qualunque sito porno disponibile sulle piattaforme. Vabbè, ma è una copertina, in questi pochissimi minuti. In questi pochissimi minuti. Però posso dirti la verità, questa copertina qui del signor Lagorte racchiude un po', riassume un po' quello che è l'umore degli italiani, di molti italiani. L'umore di molti italiani. Tu, come sai, io sono sempre stato favorevole al lockdown, anche quello più feroce, quello più duro, delazione, polizia, carabinieri, esercito. Però, amico mio, posso capire tante cose. Passati 40 rotti giorni capisco tante cose. Per esempio, quanto sono top quei due di Bari, via Celentano, credo, via Celentano a Bari, che improvvisamente si sono guardati intorno e poi lei giù la mascherina e pompa, chiamala come ti pare, al compagno, non so, mamma mia. Oggi quella roba lì ha fatto il giro d'Italia, in ogni chat d'Italia, in ogni telefonino italiano. Io non l'ho visto. Perché non ricevi queste cose, ma ci sono molte persone che sono più a contatto con la vita reale delle persone che hanno ricevuto questo file, questo video. Chat della Zanzara, non l'ho aperta. È un video di straordinaria libertà. Di straordinario, perché ci sono due, probabilmente non sono a casa insieme, che probabilmente si incontrano magari per fare la spesa, due fidanzati che si guardano lì, mascherina, lui naturalmente è attaccato a una macchina, lei a un certo punto si abbassa a mezza altezza, tira giù, ma che porcheria, è una grande dimostrazione di libertà, cioè la gente non ne può più, questi due magari non si vedono, ma no, magari non stanno insieme, probabilmente appartatevi, ma che roba è, è stupendo. Guarda, un altro atto di grande libertà viene da Palermo, dove ieri abbiamo raccontato una storia incredibile, quella del signore della grigliata che si è fatto la gente per vendere le interviste. Quest'altro si chiama Finazzo, è un Domenico Finazzo, è un ex imprenditore di 62 anni, già in pensione, figurati. Questa era proprietaria di un supermercato, che se ne sbatte altamente i coglioni di prendere le multe e dice: io non sono il virus, non mi prende, sono uno libero di fare il cazzo che mi pare, non ci credo a questi provvedimenti, per me sono ingiusti, mi becco ogni giorno la multa e vado al mare a Mondello. Ma non è il numero uno questo, se qua è felice lui, ma alla fine è stata lui, solo quanto gli costa per adesso, gli ha costato 1500 cifra, sarebbe andato a Capri, ma non ci per può andare giorni. A Capri va a Mondello, si prende la sua bella multa di 300 rotti euro al giorno, se ne sbatte le palle perché è ricco, ma si sente libero di prendere il sole. No, ma è una non vergogna attacca. È un esempio vergognoso per tutti gli altri che vorrebbero andare al mare e non hanno quei soldi da spendere, ad esempio. È una vergogna via, tu esalti, aspetta, questi mostri a Bari via De Giosa, angolo Celentano, è successo quel fattaccio, che non è un fattaccio, è un grande atto di libertà, un grandissimo atto. Io l'ho visto brutto. Ma quel pasticciaccio brutto di via Celentano, quel pasticciaccio brutto di via Celentano. Vai con Finazzo, vai, si sente? Vai. Perché lei continua ad andare in spiaggia nonostante le prescrizioni? Perché sono anti-coronavirus. Cioè? Non prendo la malattia. Ah, lei è convinto di non prenderla? non crede nelle prescrizioni che stiamo adottando? Però per... lei cosa di credere? Credo, ma non funziona. Non funziona. Io non prendo il coronavirus e sto al numero uno. Ragazzi, però vai a vedere i contagiati di Palermo o della Sicilia, uno dice: però. Beh, ma che c'entra? No, non c'è, magari sono. Cioè, ci sono pochi contagiati. Ma guardi, è una regione, appunto, per fortuna, perché è un'isola e in pochi. Per fortuna si è bloccato il flusso dal nord gente che va alle seconde case. Ho capito, case. Ma questi qua a un certo punto con pochi contagiati prima o poi li vuoi lasciare liberi di andarsi a prendere la tintarella al mare, isolati, da soli? Io questo qua lo capisco da un certo punto di vista, lo capisco, per carità, dovrebbe stare a casa. Tu passi da un eccesso all'altro, no. Passi dalla militarizzazione della società. Io sono per la militarizzazione. Alla libertà io sono per la militarizzazione, ma siccome so che è impossibile la militarizzazione, ero per la militarizzazione, avremmo già risolto il problema. So che è impossibile. Però mi piacciono questi aneliti di libertà, questi scatti di libertà. Cioè, magari se non avessi la radio io ogni giorno farei la stessa cosa. Non lo so, non mi posso mettere. Ma figurati se tu butti 300 euro per andare a prenderti una multa. No, ma tu, ma neanche questo, 5 no. euro, come tu, questo, figurati. No. Ma tu neanche 5 non euro. Vai a fare il culo. Tu ti fai mandare la spesa a casa e butti giù una fune per tirare su la spesa e non la paghi neanche. Vai a fare il culo. Mamma mia, ragazzi. Quindi lei preferisce pagare invece di adottare le prescrizioni, di seguire le prescrizioni? Adottare. Preferisce pagare. E andrà al mare in questi giorni ancora? Ah, non lo so, domani vedrò. Deciderà. Intanto di sanzioni ne ha prese 5, giusto? Sì. 5 sanzioni, ed è tranquillo, lo pagherà insomma quello che deve per la sua scelta? Sì. Un altro in Calabria comincia a rompersi i coglioni, dice che in Calabria ci sono pochi casi, basta, disobbedienza civile, eccetera, eccetera. Sentiamolo, in bicicletta, fuori, a fare... No, anzi no, in bicicletta, a fare running, fuori, eccetera. Buongiorno a tutti. Allora, da oggi iniziamo la disobbedienza civile, visto che in Calabria ci stanno 11 ricoverati in terapia intensiva e dal comodo divano romano, dal quale governa, la nostra governatrice non dà un segno di risposta. Mentre in Lombardia, con 2.000 ricoverati nelle terapie intensive, riaprono le fabbriche, in Calabria siamo costretti a questo scenario di desolazione. Vi spiegare oggi ai calabresi perché dovrebbero stare 3 mesi chiusi in casa, 2 mesi chiusi in casa, 2 mesi senza lavorare, quando qui è stata meno che una banale influenza. Sì, però vorrei spiegare a questo signore che magari è stata, come dice lui, in Calabria una semplice banale influenza per un'unica ragione, perché giustamente sono stati presi dei provvedimenti, altrimenti se continuavate a girare come prima, magari no, magari anche lì succedeva qualcosa. Poi per carità, si è bloccato in parte il flusso. Appunto, il lockdown ha funzionato, ma che scherzi. Don Fanzaga, ragazzi, Don Fanzaga, la malattia è occasione di conversione. La malattia è l'occasione di conversione. Ma quale malattia, conversione? Occasione di conversione, amico mio. La malattia può essere e può diventare anche qualcosa di grande davanti a Dio quando viene offerta. Viene offerta anche come un atto d'amore per la conversione di tutti coloro che sono lontani da Dio. Poi Don Fanzaga dice che in Italia ci sono troppi barricati in casa. Cosa, e l'Italia ormai è cristianizzata, ma chi se ne frega? Adesso la gente sta pensando alla cadrega, a quando scopare, a quando guadagnare soprattutto, a quando tornare a fare profitto, a fare reddito. Ti pare che uno sta pensando alla cristianizzazione dell'Italia? Ma chi se ne frega? Tu pensi che gli italiani non ci pensano, dai, a questo? Su, mi sa che hai ragione tu. Dai. Da anni mi vado convincendo che il nostro paese sia profondamente scristianizzato. Sì, è vero, non ce ne frega niente. Sono pieno di un'epidemia e non vedo processioni, non vedo messe, non sento preghiere. Quello che era il paese più cristiano del mondo sta affrontando un'epidemia con il solo conforto della scienza. E questa è la diversione che ho avuto anch'io, insomma. Ma per forza, ma chi, per carità, anche la scienza ha dimostrato tra divisioni, litigi. A me fa incazzare una cosa: ogni giorno si dice una cosa diversa. Adesso si scopre che non so dove pare che facciano un test in 5 minuti che ti dicono se sei immune o no. L'hanno fatto non so dove, l'hanno messo a punto, dicono che è infallibile al 100%. Ma se è vera questa cosa che dicono, magari non è vera, ma perché non lo cominciano a estendere a tutta Italia? Dai, su. Dovrebbero cominciare a estendere quei tamponi lì, sì, certo. A proposito di tamponi, David, ma lo sai che gira voce che a te piace essere tamponato da dietro? La Zanzara. Zanzarosi, è giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cruciani, scusa, ma prenditelo te a lavorare chi percepisce reddito di cittadinanza, perché da piccolo imprenditore ti dico che chi ha 30, 35, 40 anni percepisce il reddito di cittadinanza è uno che non sa fare un cazzo e non ha voglia di fare un cazzo. Quindi chi non ha voglia di fare un cazzo a lavorare come ci va? Quindi prenditelo te a lavorare, mettiti una scopa a mano, fagli pulire gli studi di Radio 24 e così lo fai contento tu. Io col cazzo me lo prendo, lascialo lì dove sta. Ma Mauro da Mantova l'ha pagata la multa? Figuriamoci se ha pagato la multa, quello Cioè, quello non ha mai pagato una multa in vita sua, figuriamoci, dai. Su. Comunque, vi dicevo prima, no, leggo da qualche parte, poi si pubblicano tante cazzate. C'è un test sierologico veloce e super preciso per il coronavirus, dura meno di 8 minuti, e si chiama COVID-19 AFS1000. No, no, in Italia. In queste settimane è stato sperimentato a Roma dal Dipartimento Malattie Infettive del Policlinico Universitario Tor Vergata. Lo abbiamo testato in zone a rischio come Nerola o Nerola, non so come si chiama, con ottimi risultati. Serve ora un protocollo dal ministero. 8 minuti. Nazionale, 8 minuti. C'è un protocollo nazionale, ci vuole. Dai, su. Negri, l'ingegner Negri, datemi l'ingegner Negri. L'ingegner Negri. Sei innamorato, dai, dell'ingegner Negri? Sono innamorato dell'ingegner Negri perché è numero uno. Senti, senti. Allora, vogliono sottomettere questo popolo con la polizia. Ma non è vero. La polizia che appena esci di casa ti dice dove vai. Io non posso accettare che questo mi venga a dire quando esco di casa dove vai, documenti, non si deve più permettere, hai rotto il cazzo, è chiaro? E prendeva una specie di statuetta con un vigile urbano in mano. Ma da così. Dove pontifica l'ingegnere? Da casa, scusa, sua. Dov'è che da casa sua, circondato da macchine. Che fa dei video su Facebook. Beh, certo, ah, YouTube, certo. Facebook. Sì, tutto così ormai, tutto così. Tutto così, tutto così. Quindi noi per questo abbiamo buttato via la Costituzione, abbiamo accettato che gli sgherri, i bravi del potere, questi maledetti luridi ci vengano a fermare per controllare un documento, un'ora, stiamo facendo il nostro lavoro, che cazzo me ne frega, un'ora per un documento. Ma faceva pure la parodia del carabiniere, sì, o ti del vigile urbano meridionale. Tu verrai ricordato quando morirai per due cose. Per due cose. In negativo verrai ricordato per aver dato voce a certi disadattati mentali rari. In positivo verrai definito l'onore de Balzac della radio, quello che ha messo in scena la grande commedia umana. Allora, l'altro giorno, io non lo so quale delle due cose ti capiteranno. L'altro giorno, in un momento di rara depressione, mi sono collegato con Zoom, ho fatto una diretta con c'era Pardo, c'erano altri personaggi. A un certo punto, Pardo. Sì, a un certo punto c'era Bobo Craxi, mi ha chiesto, c'era anche il signor Bobo Craxi, il quale mi ha chiesto: ma ottimo, tu, Bobo, Cruciani, perché cosa vorresti essere ricordato? Cosa vorresti avere sopra la tua tomba? Io ho detto: guarda, ci ho pensato, caro Bobo, ci ho pensato a lungo in questi giorni. Effettivamente è così, perché sai che mi è venuto in testa di fare pure il testamento col potere, e lo sto vero, preparando. Aspetta, io ma Bobo Craxi, potere, ma che cazzo è il potere? Allora, poteri forti, vabbè, intanto abbiamo detto. Ma no, cosa Bobo, poteri forti? Ma di che? Allora, Bobo Craxi, gli ho detto: caro Bobo, il punto è molto semplice, sto compilando il testamento di tutto punto, dandolo un testamento olografo, e lo sto consegnando a una persona di fiducia per ripartire le mie povere fortune. Perché non lo dai a Dandolo, a Dago Spia? Aspetta, Dago Spia, aspetta. Tutto online. E poi Spia, ho detto: guarda, sopra la tomba solamente una frase, solamente una piccolissima frase. Inventò una trasmissione folle, bellissima, devo dire che mi sono compiaciuto, bene, di questa cosa, solo questo, sì, nessuno, sì, non, sì, una foto, niente, non voglio foto, non voglio un cazzo, sì, eccetera, sì, sì, sì, sì. Inventò una trasmissione folle, basta, nemmeno ma i cani, nome, potranno fare la pipì, no, lì ma sopra, i cani possono lapide, fare il cazzo che mi pare, ma si pisciassero tutti i giorni, non mi to- questo è rivoluzionario, dai, sfregiare la lapide propria, bellissimo, dai. Sei un coglione. Mamma sei un coglione. Allucinante. Spatalino, vai con spatalo, vai con spatalo. Spatalino, vai con spatalo, ti vai. Mostri incredibile. L'ennesima incursione di Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia. Che è successo? Va a sfidarli, va a snidare. Cosa? Sti quattro sacchetti a perdere. Africani. Questi reagiscono, gli lanciano pietre e solo l'intervento poi della polizia e dei carabinieri ha salvato Brumotti. Ma perché non lo fa sistematicamente lo Stato? Io vorrei segnalare a Spatalino che in questo momento il problema non sono gli spacciatori davanti alla stazione di Padova dove è andato l'ottimo Brumotti, per carità, va bene, poi. Ma non ce ne frega un cazzo degli spacciatori di Padova, ma spacciassero tutto il cazzo che gli pare in questo momento, non ce ne frega niente. Dopo torneremo a occuparci anche dello spaccio, d'accordo, benissimo. Adesso adesso se uno spaccia la troca, come si potrebbe dire, non ce ne può fregare di meno. Eh no, sì, è importante. Dai, però. Ma non me ne frega niente, dai. Si è scoperto che fra gli africani ci sono decine e decine di soggetti positivi al coronavirus. Come dico io da giorni, niente. Io sono come la Cassandra, poveraccia, che diceva non portate dentro quel cavallo dei greci. E poi sappiamo la fine che ha fatto Troia. Dai, dai, dai, sono venuti gli africani, guadagniamo, dai, viva le ONG, vi farei correre con un bastone io. Ah, ragazzi miei, sai che Meluzzi nei giorni scorsi ha sostenuto che prima di avere un chip nel culo preferisce morire di coronavirus? Cioè, secondo lui è veramente. Sì, sì, sì, ha dichiarato questa cosa qua: che prima di avere un chip nel culo preferisce morire di coronavirus. Ma chissà dove gliel'hanno già messo a lui. Chissà il chip a Meluzzi. Che gli manda in cortocircuito il cervello. Comunque, Trump è il numero uno, sai che cosa ha fatto? Trump ha firmato con la sua faccia gli assegni per 70 milioni di americani, cioè la sua faccia ha messo. C'hai gli assegni, ti arrivano i soldi populismo. E c'è, ti arrivano i soldi, c'è e c'è la faccia di Trump. Sì, sì. Ma che numero uno è? Ma è un numero dopo uno Washington, assoluto. Ma ti rendi conto? Sui dollari c'è la foto di Washington. Cateno, non la foto di Trump, Cateno De Luca, Cateno De Luca contro le iene. Senti, senti. Guardate cosa scrivono le iene. Vi leggo queste quattro righe, perché qui la città si deve indignare. Il sindaco di Messina continua a far parlare di sé. Sabato scorso è stato visto nel corteo funebre nel quale alcune decine di persone hanno accompagnato la salma di Rosario Sparacio, fratello di Luigi, storico boss di mafia, poi diventato collaboratore di giustizia. Allora, delinquenti, siete delinquenti. Voi qui avete dato del mafioso al sindaco di Messina perché magari avrebbe partecipato a un rito funebre che per cultura e per mille motivi non c'era alcun elemento che mi potesse accostare. Vabbè, è avvelenato, ma secondo me non hanno scritto da nessuna parte che lui ha partecipato al corteo funebre di quel tizio là, dai, ma non è possibile. Cioè, magari uno l'ha attaccato. Avrebbe come... dovuto mandare la polizia municipale a fare sgomberare. Ma magari non lo sapeva Catenone, dai, ma non lo sapeva, Comunque, ragazzi, l'età rincoglionisce, questo è vero. C'è uno dei Queen, questo riguarda tutti. Te lo ricordi uno che è del gruppo dei Queen, Brian May, credo dei Queen, eccetera, il quale ha detto che cosa? Che mangiare la carne ha portato il virus. Cioè, della linea Martani. Cioè, mangiare la carne, cibarsi di animali, la conseguenza è il coronavirus. Dai. Vabbè, Inzac, sì, vabbè, per gli animali in Cina, ma cosa c'entra? Dai, gli Inzac. Si perdona tutto perché hanno fatto delle canzoni talmente provincia di Bari, un tale che si chiama Inzac. La corte potrebbe ricordarne qualcuna. Inzac, vai, dimmi. Estatici, trupi. Sono sempre quel famoso Inzac albanese che tu non ci credi. No, per carità, perché non ci devo credere, ormai credo a tutto, amico mio. Cioè, dimmi. No. Allora che vuoi, Inzac, dimmi. Niente, vabbè, volevo chiedere, io c'ho... no, non è che voglio niente, se t'ho chiamato perché voglio un consiglio da te, dato che tu sei l'esperto. Voglio... Dimmi, Zac, dimmi. Sono l'esperto. Allora, mi succede che sono dieci anni che sto con la mia compagna, no? Sì. Però non l'ho mai fatta venire, aspetta. Cioè, in che senso, scusa? Signore mio. Nel senso che non l'ho mai fatta venire, cioè nel senso, però io lavoro in un'azienda agricola e tuttora sto lavorando, anche se c'è il tuo problema oggi. Capisco che in provincia di Bari la situazione del coronavirus è un po' attenuata. Cioè, il tuo problema è che vuoi tornare su un argomento, cioè tua moglie non riesce a farla venire, mentre chi è che riesce a far venire? Aspetta, allora. Lavorando in questa azienda che si chiude 30 cristiani, 40 sì, ma poi mi racconti tutto un attimo, Izak, mi racconti tutto dopo, fermola. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. La zanzara. Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! Erba calabrese, produzione propria. Qualcuno ha dell'erba! Te! Ti prego! Ne ho bisogno! C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Qualcuno ha dell'erba! Ne ho bisogno! Io ritengo che sia arrivato il momento per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Militarizzare l'Italia. Italia. Italia. Sono Richard Benson e sto qui libero da qualsiasi compromesso, da qualsiasi consiglio. A me non mi servono i consigli. Non me ne frega un emerito cazzo dei consigli. Un'avvertenza. Ho un carattere ferroso, ho un carattere dinamico, ho un carattere ribelle. Io direi, Salvatore, se mi accendi la lucetta rossa, di partire immediatamente con la prima telefonata! I think that I'm the only one who's lonely. Someone calls on me. Hey. And every now and then I spend my time at rhyme and verse and curse those faults in me. Hey. And then along Hey. Along comes Mary. Amo quanto mi ami. Dillo a tutte e mo' tutta la vita. David, quanto mi ami? Dillo a tutto il mondo, ah, tutta la vita. Pezzotte! Pezzotte! Dai, stupendo, dai. È meraviglioso questo qua. Poi si è venduto, si voleva vendere le interviste, l'abbiamo anche bloccato, diciamo, che siccome stava facendo il grande business per pagare tutto, per farsi qualche mensilità, il grande business l'abbiamo fermato, stoppato, fermato sul nascere, sul nascere questo business. Sai che però riascoltando Richard Benson, quando apre le telefonate, no, quell'audio che ha mandato poco fa la corda, sarai tu tra qualche anno quello. Tra qualche anno io ti immagino esattamente così. Culo, probabilmente sempre su Radio 24, però ti immagino così, senza denti, tutte senti così. Ma che senza denti? Ma che cazzo? Così, così sarai tra qualche anno, manca pochissimo ormai. Ma guarda, senti, senti, sei tu tra qualche anno. Non dire cazzo. Non me ne frega un emerito cazzo dei consigli. Ecco. Un'avvertenza. Ho un carattere ferroso, ho un carattere ferroso, dinamico, ho un carattere di bende. Io direi, Salvatore, se mi accendi la lucetta rossa, di partire immediatamente con la prima telefonata. Uguale. Mi vuoi male, tu tra qualche anno. No, tu tra qualche anno, così sarai. Così. La corte probabilmente avrà il catetere. La corte avrà il catetere. E Poli sarà claudicante. Ramelli sarà senza denti. Ma perché? E tu sarai così a dire: allora passate una telefonata. Così, sei veramente. Così. Io direi, Salvatore. Sì. Esatto. Che è, il donato di Richard Benson, è il donato, esattamente, si sta a donato come donato. Allora, sta, ma quanto voglio bene a questa prostituta veronese di 61 anni che si è spostata a Mantova a caccia di clienti ed è stata fermata dalla polizia davanti a un ospedale, poveraccia. Cioè, questa qua a un certo punto non si è inventata nessuna scusa, ha detto candidamente, tranquillamente: aspetto un cliente, aspetto dei 400 euro di multa che non pagherà, che ovviamente non pagherà. Ti posso fare sentire un matto? Dai, è un po' di tempo che non facciamo sentire un matto. C'è uno. No, un matto. Ma fammi sentire una persona uno normale. Bizzarro, un uno tu, bizzarro. Quando mi dirai ti faccio sentire una persona normale, dici sarà una novità. Allora, questo qua sarà si chiama novità. Pamio ed è uno di quelli. Matto è uno che ha le sue tesi, adesso non è proprio un matto. Insomma, uno di quelli che sostiene che il virus è un'invenzione, le multinazionali, eccetera, vabbè, eccetera. Questo. Certi dottori ricordano gli esperimenti dei gerarchi nazisti. Porca miseria. Dottori e non solo per l'infima caratura risultano intoccabili, possono dire tutto al contrario di tutto, perfino far riemergere alla mente gli esperimenti dei gerarchi nazisti. Poi credo che si riferisca a Burioni, vuole vaccinare i giovani e iniettargli il virus. Questo va in giro a dire: si prendono delle persone giovani, si vaccinano e poi si prova a infettarle, così riduciamo sperimentazione del vaccino da un anno a pochi mesi. Non so se mi sono spiegato. Quindi, per accelerare la presa per il di dietro, quindi ridurre i tempi di sperimentazione da un anno a pochi mesi, allora? Semplice, prendiamo delle persone giovani, si vaccinano, ma sono volontari, e poi si prova ad infettarle. Ecco, questo è il diversamente umile che viene intervistato da tutti i canali televisivi, da tutti i media mainstream, diciamo. Ecco, questa è la sua battaglia, il suo main kampf. Cioè, posso dirti una cosa? Cioè, questi qua che dicono io non lo farei mai il vaccino contro il coronavirus, eccetera, eccetera. Beh, amico mio, quando dovesse arrivare questo benedetto vaccino, quando dovesse arrivare, dovrebbero essere esclusi dalla lista. Esclusi. Adesso batto come del spadalino. Tun tun tun tun tun. No, invece lo daremo a tutti. Lo daremo Irzak, a tutti. Provincia di Bari. Irzak era quello di prima. Non so cosa aveva da dire ancora. Dice che con la moglie non riesce a fare un cazzo, non riesce a farla venire. Chi cazzo ha detto non riesce a fare un cazzo? No, non riesce a farla venire, ha detto. Però, allora, lavorando in questa azienda, che siamo una trentina di operai, ho conosciuto una ragazza che, premetto che mia moglie è carina come la tua, no? Cioè, più o meno. Vabbè, allora vai avanti, forza. Ma che ne sa lui? Cosa vuoi come la tua? Non è carina, è un po' sul cesso. Ma non ho capito, qual è il senso di questa telefonata, di questo intervento di Irzak dalla provincia di Bari, che non hai un cazzo da fare, sei a casa, immagino, oppure sul camion, se fai il camionista. Non so che lavoro fai, caro Irzak. Lavoro in campagna, sì. Tocca a una cosa, che giovane. Praticamente a questa la faccio venire e mia moglie no. Voglio l'amante capire. La fai venire e la cosa, allora, la spiegazione è molto semplice, caro Irzak. Con tua moglie ormai non c'è più niente da fare. No. Sei in una ma che cazzo dici? Con tua moglie non c'è niente da fare ormai. Non c'è nulla da. Probabilmente tua moglie viene. Probabilmente con tua moglie viene fatta venire da qualcun altro. Gode con qualcun altro. Molto bravo. Ma perché bisogna dirgli così? Ma per forza. Ma è naturale. Se lui dice la moglie non riesce a farla venire, è evidente che la moglie. Comunque non mi pare il tema centrale della giornata dal punto di vista dell'attualità, della politica. Non mi pare il tema Irzak, centrale. Capito qual è la situazione? Ma fallo sta cita, cudo bacca alla da parenzone, dai. Ma voglio dire, sì, hai ragione, con tutto hai il rispetto, dico, con tutto il rispetto, caro signore, qui si sta discutendo di MES, del Consiglio d'Europa. Lei interviene su un argomento che francamente non riguarda la molteplicità degli ascoltatori, riguarda i problemi tra lei e quella cornuta di sua moglie, perché a questo punto bisogna definire le cose così come sono. La moglie è cornuta. Ma chi cazzo se ne frega? Io non sto dicendo cornuto, non me ne frega niente, ma voglio capire. E io spero che tua moglie ascolti la Zanzara e stasera quando torni a casa ti prendi una bella rancolata. Ma da fare, roncolata, perdono, roncolata. Da tre figli da mantenere, mo sta ascoltando la Zanzara e hai strunto, dice tu, du messo, du cazzo, du ma... Però scusa Mirzak, innanzitutto c'è mettiti, tre figli da mantenere. Mettiti tu bene, sei, mettiti bene innanzitutto, mettiti bene con quel telefono, sennò veramente arrivo lì in provincia di Bari dove purtroppo non posso arrivare. La roncolata, No, metti bene quel telefono, metti bene quel telefono, metti bene. Allora io voglio capire una cosa, la conclusione di questo tuo ragionamento è questo: tu vai con la tua amante e la fai venire, ok? Con tua moglie non ci riesci, è evidente che tua moglie senza orgasmi dall'inizio, sì, non ma da adesso, sì, vabbè. Tua moglie senza orgasmi non può stare, è evidente che trova soddisfazione altrove, mi sembra scontato, amico mio, mi sembra scontato, è inutile che torni su questa cosa. Tua moglie trova soddisfazione in altre cose, in altri maschi, sì, è evidente, sicuro, è evidente. Ma a me non me ne frega nulla, forse non è allora, capito, nulla. A me mi interessa, cioè capire il ma mi piacerebbe farla venire pure a lei, cioè è quello il senso, non lo so, rivolgetevi tutti e due a uno specialista, a un qualcuno, dice perché non riesco a venire. Ci sono delle persone che sono molto complicate da questo punto di vista, non è ma semplice. Ma perché quella sia la mia compagna? Perché probabilmente con la tua amante o con la tua donna riesci a trovare più eccitazione, dunque riesci ad attoccare dei luoghi, a toccare delle parti che con tua moglie non ci riesci più, non lo so, non so darti una spiegazione. E tua moglie... A dir la verità, io prima andavo, sai, quelle più belle, che belle, cool. Ma non c'entra niente, bella, quello non c'entra niente. Ma che maiale questo qua, ma che maiale vergognoso. Ma vuoi chiudere il telefono, Kudok? Ho chiuduto il telefono. Questo è perfettamente integrato, un albanese perfettamente integrato. Ciao Irzak, ciao. Una prugnetta mi faccio crociare. Aldo da Pisa, vai Aldo. Oh, dimmi Giuseppe Cruciani. Dimmi Aldo, che è successo? No, mi hai fatto venire l'altro giorno, ti devo mandare il conto dell'osteopata perché ho aspettato un'ora e mezzo, sono riuscito a parlare. Dimmi tutto. Allora, io vivo in una città leghista. Purtroppo. Purtroppo dipende. Vabbè, purtroppo stavano fino al 5 marzo con i mitra, le camionette in piazza e tutti i dispacciatori tranquillamente che continuavano a lavorare. Sì. Capito? Perché cosa fai? Spari alle palline. Adesso Pisa deserta. Sì. Io ho dei trascorsi lustri fa. Ok. Quindi conosco. Che vuol dire trascorsi illustri? Non eri quello che faceva il barbone tu? No, non facevo il barbone. Diciamo che ho fatto uso di ex eroinomane sostanzialmente. Sì, ma vent'anni fa. Vabbè, ma qual è il punto? Cosa volevi? Il punto è questo: che questi qui, tranquillamente, e non ho nulla da dire contro ciò, continuano a vendere tranquillamente. Ci sono solo loro. Gli spacciatori, allora, dici te? Assolutamente. Sì, ma ragazzi, ma non è mica una novità, cioè è la realtà, di come... Assolutamente, ma allora dov'è la politica? Ma chi, dov'è la politica di cosa? Ma non c'è ma allora dillo che di fronte ai bisogni delle persone ti caghi in mano e accetti, perché fanno i controlli a me quando vado alla Coppa a fare la spesa, quando vado in farmacia magari a prendere lo Xanax, Quando vado a prendere e mangiare per il coniglio, e poi il coniglio. Vabbè, non... c'avrà un coniglio, che ti devo dire? C'è ho capito, ma è tutto strano. Potrà avere un coniglio? Ma sì, ma, che, ma figurati, il coniglio anche, ma chi se ne frega? Ma voglio dire... Ma... Vabbè, ma che hai fatto con questi spacciatori? Che hai fatto? No, no, nulla, io ho fatto dei video, li ho mandati a dei miei amici per far... Ma ragazzi, ma non mi stupisce nulla, in questo momento la polizia e i carabinieri non gliene frega niente, ma anche prima non è che fosse così complicato spacciare, ma no, diciamo. Prima facevano vedere che... Ma sì, ogni tanto, ragazzi... Ragazzi, se uno si vuole procurare la droga prima diciamo nel mondo precedente, se uno si vuole procurare la droga, se la procurava lo stesso. Lo stesso. Per cui adesso, diciamo, essendo più occupati nel controllo, esatto, della cittadinanza, lo spaccio è più o meno libero. Esatto. Quando uno proprio, cioè, che ne so, con la scusa, so che spacciano moltissimo con Glovo, con queste robe qua. No, Glovo, ma facendo zero, finta. No, proprio così. Non con Glovo ufficialmente, naturalmente, ma facendo finta di essere dei driver là, come cazzo si chiamano. Ma magari io sono andato in farmacia, mentre andavo in farmacia passavo dalle vie del centro, che sono in molte città italiane le vie, diciamo, quelle deputate ai commerci. Vabbè, allora... più rock and roll, tutti a posto amico, serve, non serve niente, grazie, apprezzo molto il servizio che date. Ma che dici, degli eroi, sei impazzito? Però Fermola. La Zanzara. Matteo! Well, I've been taking my time, slow going's nothing new to me. Ma il vero problema è quello della libertà. Questa è la parola chiave. Io ho sentito delle parole anche spaventose dal punto di vista psichiatrico questa sera, perché vedete, meglio del telefonino per tracciare i comportamenti ci sarebbe una soluzione ancora migliore, che un bel microchip infilato sopra la pelle che trasmetta a una centrale internazionale il nostro stato di salute, con temperatura corporea, glicemia, funzionamento dei neurotrasmettitori, insomma tutto qua. In questo modo saremo sicuri di poter vivere da robot e morire malati quando avranno questo momento. Ma prima di vivere con un microchip infilato sotto la pelle o nel culo, preferisco morire prima o di coronavirus o di qualsiasi altra cosa. Vabbè. Oh, Parenzo, leggo qui che è in collegamento il mitologico dottor Mozzi. Buonasera. Sì, buonasera Cruciani, a lei, a Parenzo. Come buonasera, stai? Come stai, Pietro? Come stai? Sì, beh, sto bene, di salute sto bene, sono troppo cattivo e quindi il coronavirus non mi fa niente. Quindi bisogna essere più cattivi del coronavirus per non avere problemi. Scusami Piero, io voglio capire una cosa da te, ma qual è la tua, tu che sei, come dire, il grande esperto, anzi il guru della dieta del gruppo sanguigno, qual è la tua ricetta contro il coronavirus, la tua dieta preferita contro il coronavirus, qual è? Beh, intanto si è visto che i cinesi finalmente, sembra quasi che io, dopo che per un mese continuavo a dire ma perché nessuno fa una ricerca per vedere se c'è una relazione tra coronavirus e gruppi sanguigni, in Cina l'hanno fatto e hanno appurato che, insomma, il gruppo sanguigno zero è quello che sembra più resistente. Ma veramente stai dicendo? Tu stai dicendo che il gruppo sanguigno zero è più resistente al coronavirus? Sì, questo è un dato appurato da questa ricerca fatta a Wuhan, proprio nell'esistenza la ricerca di Wuhan. Vabbè, poi andiamo avanti. Poi? Che il gruppo sanguigno A è quello più sensibile. E voi che siete, Parenzo, che è di gruppo zero negativo, è resistentissimo, quindi lui non dovrebbe aver problemi. Ma sì, io non lo so di che gruppo sei io sono, ma che cazzo dici? L'hai detto una volta. Ma non mi ricordo. L'hai detto una volta, non so. Fidati, e sei resistentissimo, dovresti essere contento, non ti toccare. Io mi chiedo scusa se intanto mi tocco a carne proprio, chiedo scusa perché mi fido poco di questo signore. Vai avanti Piero, vai. Per il gruppo B, come Giuseppe, o il gruppo B non ci sono grosse variazioni. Però è già più critica la situazione. Però, scusami. È più critica, diciamola tutta, dottore. La situazione di Cruciani è indubbiamente più critica. Diciamola chiaramente. Il gruppo C sanguigno zero negativo, sì, a cui lei appartiene, è decisamente più resistente. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ecco, quindi anche quello di Cruciani invece potrebbe creare dei grossissimi problemi, no, potrebbe creare dei problemi. Beh, diciamola tu, tanto non si spaventa, enormi problemi. Ma perché? Enormi, grossissimi problemi, grossissimi. È che magari ci mettono del tempo a andare incontro, certo, alle malattie, ma ci mettono molto più tempo a uscirne. Come ad esempio, certo, un gruppo sanguigno zero negativo in un attimo può andare incontro a una malattia, ma in un altro attimo può uscirne fuori. Come Parenzo, zero negativo, in un attimo ti prendi la malattia, però in un attimo non ti preoccupare, ne esci. Mentre Cruciani la prende e così come la prende velocemente ci abbandona velocemente. Velocemente, c'ha più difficoltà magari ad uscire. Comunque, sì, quindi finisce male, appunto, esatto, ci abbandona nel senso che se ne va dall'altra parte, ci dispiace. Va bene. Il discorso che adesso secondo me è da affrontare, che vedo che non c'è tanta buona volontà da parte degli organi di stampa, dei giornalisti, sì, qual è? Di mettere il naso in certe questioni, in certe faccende. Per esempio, dottore? Ad esempio, vedere, valutare in giro per il pianeta che cosa succede. Ad esempio, la Corea del Sud, secondo me, offre un esempio decisamente. Beh, sì, perché c'è stata la mappatura, la tracciatura, no? O no? No, perché la Corea del Sud oggi sono arrivati, se andate a vedere i dati di oggi, in totale sono arrivati da, e sì che hanno iniziato il contagio prima dell'Italia, sono arrivati a 230 decessi. Sì. 230. Ma come mai, secondo lei che si occupa di Ecco? Invece i contagiati sono neanche 11.000. I casi sono le possibilità, secondo me, per quello che per la sua scienza, diciamo, per quello che ho cercato di indagare, i casi sono due. Sì. Uno, perché loro hanno adottato una scelta già iniziale di fare molti, molti tamponi. Vabbè, quello è chiaro. Poi quello di sospendere la cosiddetta privacy, per cui venivano segnalate. Vabbè, ma quello lo sappiamo, tutte cose che sappiamo, ci dica qualcosa di nuovo. Sappiamo tutto, questo è il divino tema delle cose. Qualcosa di nuovo riguardano, secondo me, il mio parere, modestissimo e fallacissimo. Sì, certo, come sempre. Parere, che di verità assoluta io non ne ho, ma però ho buona volontà e tanta esperienza. I casi sono dovuti a una determinata alimentazione che porta ad avere un sistema immunitario più valido. No, capito, ma in Corea ognuno mangia il cazzo che vuole. In Corea non usano né mais, neanche cereali col glutine, perché vanno a riso. Ma non credo proprio, qualcuno mangerà il mais e cereale col glutine, l'alimentazione pochissime, nel senso che tipo se lo mangia al 10% non incide. Poi? In Corea non usano, se non in minimissima parte, latte derivati del latte, perché usano soglie derivati della soia. E poi? La terza cosa, il terzo fatto è che in Corea non usano frutta, perché la frutta in Corea frutta costa un occhio della testa. No, fa male. La frutta costa un occhio della testa, tipo lei paga molto meno magari un chilo di carne che un chilo di banane. Quindi il popolo coreano... E c'è da dire questo fatto, che questo coronavirus, voi dovete pensare... Faccio sempre un esempio proprio semplicissimo. Qual è? Facciamo conto che noi abbiamo delle braccia, un piccolo fuoco, può essere il coronavirus. Questo fuoco può rimanere lì senza creare dei grossi guai. Sì. Ma se noi sul fuoco ci buttiamo della benzina. Quale sarebbe la benzina? Quale sarebbe il cibo sbagliato? Giuseppe, possiamo avere un incendio o soprattutto un'esplosione, per cui in un attimo le persone vanno incontro. Allora, che cos'è che non dobbiamo mangiare secondo lei, dottor Mozzi? Mi dica subito chiaramente. Quelli che secondo me andrebbero approfonditi sono questi aspetti dell'alimentazione. Sì, ma che cos'è che non bisogna prendere? Che cos'è che non bisogna? Che ne so, magari sono bravi anche perché fanno lo yoga in Corea, non lo so. Certo, ma ad esempio, per quale motivo non insegnare alla gente la respirazione che viene praticata da chi fa yoga? Respirazione. Io ho visto. Combattiamo il Covid con lo yoga. Ma ragazzi, io vi sto per mandare a fare in culo tu, Aspetti un attimo. No, ma io aspetto, però ho detto, ma infatti non ho urlato. Ho detto io, ragazzi, tempo 30 secondi, dopo lo yoga vi mando a fare in culo. Con rispetto, però, veramente, con rispetto. C'è uno strumento, c'è uno strumento che è stato rimesso. Che miseria, ragazzi. Le persone che hanno una saturazione dell'ossigeno basso, dopo che hanno fatto 10 minuti di respirazione di quel tipo lì, yoga, la percentuale della saturazione migliora del 3-4. A me iniziano a fumare i coglioni, che non ha neanche idea, non so se sia saturazione, ma è una saturazione sicura. Lui sta dicendo, ragazzi, è più forte di me, non so cosa dire, vi chiedo scusa. No, ma lei mi viene una saturazione, ma mi fumano fai i coglioni. Fai la prova a fare un po' di yoga e a respirare meglio. Mi state facendo girare i coglioni, posso dirlo? Mi state facendo saturare i coglioni. Come ve lo devo dire? Mi devo dire? Mi fate arrabbiare e che vi devo dire? È un dato di fatto. Non era un caso che se ad esempio Maiola, presente chi era Maiola, quello che era un bravissimo un nuotatore che scendeva nella bici Maiorca, era Maiorca, si chiamava Maiorca. Era Maiorca e Maiol. Ah, Maiol, quello francese, sì, quello francese. Vabbè, allora? Maiol, lui non faceva tante cose, però prima faceva sempre le sue respirazioni in base allo yoga. Ho capito, però amico mio, ma ci sono le parti della mia intensiva e facciamo la yoga. Cosa volete che vi dica? Comunque, se voi andate a cercare adesso in internet, c'è la ricerca dell'ospedale del bambino Gesù, una ricerca fatta a Roma, c'entra per vedere l'effetto tossico che è stato appurato dai medici del bambino Gesù del fruttosio sul fegato dei bambini. Cioè tu stai dicendo più fruttosio più coronavirus. Se uno più fruttosio ha più il virus può diventare virulento. Capito? La famosa benzina di cui ho parlato prima. Ma serve per esempio la vitamina C, serve o no? Ma la vitamina C è dappertutto, lo sa dove trovano in Corea la vitamina C? Le arance, le spremute, servono o non servono? Ma secondo lei, se servissero, perché in Italia siamo così ridotti che tutti escano dai supermercati con delle borsate di arance? Oggi perché? un ex dei Queen, un batterista, non so che cosa, non mi ricordo il nome, ha detto che la carne è la prima origine del coronavirus e il fatto che la gente mangia la carne. È possibile una cosa di questo tipo? E si tratta di appurarlo. Si fa una ricerca, si vede e si va a vedere magari appunto come cosa succede comunque, in Corea, che mangiano carne, addirittura mangiano anche i cani come succede in Cina comunque, e non mangiano la frutta, dopodiché sono i risultati. Comunque lui lei sta dicendo, Tormozzi, in conclusione che lo yoga è fondamentale. Lo yoga è importante, non è importante, capito Parenzo? È importante, è importante. Fate yoga, benissimo. Vaglielo a spiegare a chi vive a Bergamo di fare yoga. Vaglielo a spiegare in queste ore a chi vive a Bergamo. Vai lì, io ti pago il biglietto del treno. Tu vai davanti agli ospedali di Bergamo e gli dici: fate yoga. Io ti giuro, ti pago il biglietto del treno. Se lo fai, te lo pago io il biglietto del treno. Vai lì davanti agli ospedali di Bergamo con i camion dell'esercito che portano via le salme e gli dici: fermi tutti, dovevate fare yoga. Io ti giuro che ti pago il biglietto se lo fai del treno, te lo pago io, solo andata però te lo pago. Biglietto di solo andata. Dimmi Piero. Allora, se lei avesse in mano le testimonianze che ho io di persone che mi hanno scritto, dottore. Sì, dottore, guardi, noi siamo risultati positivi al tampone del coronavirus e non abbiamo avuto niente, neanche una linea di febbre. Perché vede, qua non si studia, secondo me, a sufficienza come mai ci sono tante persone che nonostante il contatto. Cioè, chi fa yoga sicuramente sta meglio, questo è il punto. È una possibilità, ma anche chi si alimenta in un certo modo, che non intossica il suo sistema immunitario, chi non l'indebolisce, perché alla fine è come essere su un ring, visto che la battaglia per a bloccare il contagio la si sta perdendo, perché oramai il contagio è come un fiume in piena e non lo ferma nessuno il contagio, perché oramai fino a che non aveva fatto il suo percorso il virus, mi auguro di sbagliarmi, ma facilmente è come fermare un fiume in piena, lei lo ferma un fiume in piena. Cioè ormai chi ha il sistema immunitario buono sopravvive e chi non c'ha bisogna fare come quando si è su un ring. Se lei è su un ring e ha la guardia bassa, che cosa fa? Finisce al tappeto. Non c'è ma dubbio. Se lei è su un ring e ha la guardia alta, non finisce al tappeto. Ciao magari Piero, un abbraccio. Ciao Piero. Provare, ma non costa niente. Proveremo a fare yoga. Ciao. Oh no, she's not a secret now. Incredibile. Angelo da Roma, vai Angelo. A me sembra incredibile che nella radio della Confindustria ci sia uno che dice: tra i rimedi fate yoga. A me sembra incredibile, ma sarò io che sbaglio, per carità. Ho capito, ma che ti costa? Ma fai yoga la mattina, così respiri meglio, dai. Poi ti ha anche rassicurato. Incredibile. Zero negativo. Sulla radio della Confindustria, la più autorevole radio italiana, ci sia un signore che alle 20 meno 15 dice candidamente: fate yoga. Manda, io lo trovo incredibile. Angelo, incredibile. Da Roma, vai, Angelo, dimmi. Giuseppe, Nagianti. Sì, sì, ti sento. Buonasera, ecco a te altro, e un altro lucido. Sì. Buonasera, caro. Tutto a posto. Vai, io mi sono fatto un bucio di culo così, scusa il termine. Sì, ma figuriamoci. Allora, cos'è che mi sono fatto io? Mi sono fatto un'ora e tre quarti di fila per entrare al supermercato. Non so di a quale supermercato. Vabbè, ma diciamolo pure. La via Lucrezia Romana, non lo so dove. Piedi. Fino vabbè, a zona Capannelle, vabbè, a Capannelle, Roma dai, Sud, Roma fino, Sud, sì. Vabbè, me sono fatto 6 km a piedi e sei a tornare a busta dalla spesa. Beh, mortacci, comunque, 6 km. No, 6 km, 6 km. E sei a tornare con la busta piena della spesa. Ma perché non c'hai la macchina? Non potevi prendere un autobus? No, scusa. Io non ce l'ho la macchina. Vabbè, Angelo, ha fatto la fila. Allora, l'autobus. Ma posso permettere? Non se la può permettere, L'autobus, ho detto, l'autobus. Però del culo, sai perché? Perché vedo la gente che cammina in bicicletta e messaggia così, da senza i manubri. Io ho ammortito a 10, ma avessi disposto uno. Cioè, non ho capito che fanno. Stanno in bicicletta, aspetta, Angelo. Stanno in bicicletta senza che cosa? Non ho capito. Io sono l'unico coglione che non porta la mascherina. Ma adesso tutti senza mascherina. Non so manco se è obbligatorio lì nel Lazio, forse sì. Ma ormai ogni regione fa il cazzo del comodo suo. Ma giustamente, a certo punto. Via delle Capannelle. Ciao Angelo, ciao. Leonardo, credo qua dalla Bulgaria. Ah, sì, pronto. Dimmi Leonardo, dimmi. Allora, io sto qua in Bulgaria, no? Sì, dove? A Sofia? No, a Varna sono. Varna, grande Varna, sul lago di Varna. No, lago, Mar Nero. Mar Nero, sì, scusa, me ne pensavo fosse il lago di Varna. No, non esiste il lago di Varna, benissimo. Mar Nero, Varna, sì. Varna sul Mar Nero. Allora? Non sono mai stato. Dunque? Allora, cioè, stando qua in Bulgaria mi è venuta questa idea, può essere anche un po' stramba, comunque. Qual è questa idea, caro Leonardo? Dimmelo. Allora, la Bulgaria è in Europa come noi, no? Vabbè, allora. Però non ha l'euro, ha la sua moneta, che è l'evo. Allora? Un euro vale 2 leve, che è 1900 qualcosa. Allora, noi, cioè, ora già si sta parlando di uscire dall'euro, è un casino, no? Invece, la mia idea sarà stramba, è quella di introdurre la lira. È molto stramba, riprodurre. Sì, senti, no, qualcuno della Lega lo dice questo. Senti, no, fagliela dire, perché purtroppo circola. Fammi finire, dai. Fare come la Bulgaria, cioè rimanere in Europa ma senza l'euro. Sentilo. No, con l'euro, solo nel territorio italiano la lira. Tu i conti correnti saranno sempre in euro. Chi vuole andare in È bravo il furbetto. È bravo il furbetto. No, non è un furbetto. Se e gli stipendi vengono pagati come? Gli stipendi come vengono pagati? Con le lire. E tanto chi vive in Italia spende nella lira. La lira. Ah, quindi ti. Questa è la trasmissione di Enzo Tortola. Ma finire, so che anzi, ridere, la corrida, scusami. La corrida. Il discorso. Sì, prego, economista. Prego. Fatemi finire il discorso. Cioè, con questo, introdurre la lira. Sì? Invece ma lei è consulente di Rinaldi? Ma lei è consulente di Rinaldi? Non sono consulente. La lira, ma teniamo l'euro. No, teniamo l'euro sui conti correnti, mi mandiamo a fare in culo e famo circolare l'ira. Ma lei è il consulente dell'onorevole Rinaldi per caso? Lei è il consulente dell'onorevole Rinaldi, eurodeputato della Lega, secondo me. Cioè, idea geniale. Mettiamo la lira però sì, solo in geniale. Italia. Certo, uno non certo. Mandare la lira all'estero. No, ecco, non può, lo tiene solo in Italia. Bellissimo. Teniamo la lira, dai. Sì. Ma dai, ma fammi finire però. No, ma per carità, certo, scusi. Allora? Se si mette la lira in Italia, sì, si recupera tutte le euro che circolano in Italia. Certo, giusto? Certo. Giusto, ma insomma, quindi lei dice teniamo nei conti correnti l'euro, giusto? Gli stipendi vengono pagati lire e in Italia sì, si spendono solo le lire. Solo in Italia si spendono le lire, giusto? Solo in Italia, sì, esatto. Ma io le do il numero dell'onorevole Rinaldi della Lega. Lei gli scrive al Parlamento Europeo, lei gli scrive e così gli propone questa brillantissima idea, d'accordo? Aspetta che le dico il numero. Rinaldi. Faccio un discorso pubblico, ovviamente. Aspetti, vado a cercare un attimo. Rinaldi parla. Allora, una mia amica mi scrive: sto correndo, ti sto ascoltando, lo yoga aiuta davvero. Ragazzi, io ce la faccio più, lo yoga, avete rotto il cazzo pure con sto yoga. L'unica cosa che servirebbe, ragazzi miei, è trombare sul serio. Allora, abbiamo qui in collegamento, penso, uno dei più grandi puttanieri italiani. Lui stesso lo ha dichiarato come nella top. Ha detto sempre nella top assoluta. Dalla sua casa di Piazza Limonda, Genova, uno dei più grandi manager del moto mondiale delle moto, Carlo Pernat. Buonasera, buonasera. Ciao ragazzi, sono in quarantena. Meno male, Giovanni, che non c'ho la moglie. Sono Giuseppe, Giuseppe, sì, vai. Giuseppe, perdona. Vabbè, succede, succede. Non succede, cioè, in questo momento di quarantena perdi anche nomi, cognomi, indirizzo. Non ho capito, meno male che non c'hai la moglie, perché? E se no sarei al 41 bis, perché secondo me se sei in casa con la moglie è un 41 bis. Ma 41 bis, ma altro che 41 bis, ma è come stare, è peggio del 41 bis, 41 bis senza manco la possibilità di quelle poche cose che ti dà il 41 bis. Bravo, secondo me anche senza. Dunque sei da solo, a Piazza Limonda, Genova, Sì, sì. Ora io dico, uno come te, Piazza Limonda bellissimo lì, uno come te, però Carlo, uno come te che ha la, come dire, la sua, come dire, no, non so come dirlo. Sì, che più volte ha detto: io sono un puttaniere, mi metto la medaglia, non me ne vergogno, eccetera, eccetera. Certo. Grande frequentatore di bordelli in tutta Europa, eccetera. Assolutamente. Ma come cazzo fai in questo periodo? La domanda è proprio da amico. No, da... no, da amico. Io mi sono arrangiato, nel senso, cioè? Che ho delle mie amiche che mi vengono a trovare. Ci mancherebbe. Amico, attenzione, fermo, attenzione, uso la mucchina. Attenzione. Uso la mucchina, ragazzi. Ma che non mucchina? È un problema. In che senso usi la mucchina? Vabbè, ma dove la mette la mucchina? Scusi, indovina un po' dove la metto. Secondo lei dove la metto la mucchina? La metto nella, non voglio saperlo, brucia se la mette lì. Cioè, non ho capito, brucia se la mette, vai, no, pazzo. Mi stai dicendo, è un sadico. Aspetta, aspetta, aspetta. Tu mi stai dicendo, che prima, aspetta, aspetta Carlo. No, a parte che Carlo Pernat non gli può dire questo è pazzo. Anche se lo so che è Carlo Pernat, se è Carlo Pernat, no, ma infatti uno mette la mucchina nella vagina e lo dice alla madre della Confindustria, per me è un pazzo. Cosa vuoi che ti dica? Attenzione, attenzione, Prezzo, io ho detto mucchina per non dire quel gel di mucchina, non la mucchina per lavare i pavimenti, non è che sia pazzo del tutto. C'è un gel, no, di mucchina. È pazzo comunque. Ma non è vero, ma non è vero. Ma allora, fammi capire bene. Innanzitutto, facciamo, riavvolgiamo il nastro, caro Carlo. Allora, tu stai dicendo: io non posso stare in qualche modo ogni tanto senza farmi una scopata. Troppo tempo. Certo, troppo tempo. Certo. E dunque ti sei arrangiato. Cioè, hai dei numeri fissi, delle persone, immagino sudamericane, dato le tue, insomma, no, le tue. Sì, diciamo la maggior parte sudamericane, però anche qualche, diciamo, indonesiana esiste ancora qua, thailandese, cioè, indonesiana. Ah, come thailandese, indonesiana. Cioè, diciamo, è la classifica, là è latinoamericana. Là è latinoamericana. È chiaro che non è che scopi, come si dice, perché è imbarazzante, si usa la leccata, che è una cosa normale. Beh, quella però, quella potrebbe essere anche la leccata, potrebbe essere anche, alcuni dicono di sì, altri anche su questo c'è una grande discussione, cioè il rapporto sessuale può contagiare o no, alcuni dicono di sì, altri no, ma certo, l'incontro tra due persone, sì, come fai a essere sicuro che questa qua che tu hai invitato a nottetempo a casa tua pagando non abbia il Covid? Spiegami. Ti ho detto perché io ci metto il gel di mucchina che non brucia, disinfetta, e sono convinto da parte mia che questo possa funzionare. Un mio amico diceva, per non metterla sul, sullo scurile, che sì, la lingua è la cassa di risparmio dell'uccello, dicevo, cioè, mio amico, e in questo momento bisogna usare questa cassa di risparmio. Però scusa, il contatto fisico c'è comunque con questa persona, non c'entra niente il rapporto sessuale, cioè tu fai arrivare questa persona e comunque hai a che fare con questa persona, non la puoi tenere a distanza di un metro questa persona qua. Ho capito, ragazzi, hai ragione, però io francamente di questo, a parte che io quando vado fuori uso la mia mascherina, esco mezz'ora al giorno come i carcerati, io in casa sono pulito, ho pulito tutto, questa che viene io le conosco, cioè sono persone sì, sono anche amiche oltre che latinoamericane, per cui io ritengo che si possa fare. Sto benissimo, anzi sto sempre meglio. Ma misuri la febbre? Misuri la febbre a queste persone? No. Misuro febbre, sto benissimo. No, loro no, ma le misuro a me, poi loro me ne frego. Ti dico, io sono molto egoista, probabilmente è un difetto, non è un pregio. A volte è un pregio, a volte è un difetto. Io uso questo, sto bene, ho una stecca di bottiglie di mucchina e gel. È chiaro che io due volte alla settimana bisogna che lo faccio, abbiate pazienza. Tanto se dopo domani mi... dopodomani, ragazzi, bisogna vivere la giornata, il tempo non passa, il tempo arriva. Questo è vero, ragazzi. Parliamo, allora c'è anche questo elemento qua. Allora, Carlo Perrazzo dice: no, perché voglio dire, ma quando le fai venire? Adesso, di no? Non capisco. Ma lui rischia, ma no, di, ma suo, con tutto rischia di suo, per la sua storia, per quello che lei rappresenta. Però l'idea di far venire a casa delle ragazze, anzi, più ragazze. In sì. una condizione come questa, sparagli la mucchina lì dove ha detto lei per certo. come dire, soddisfare i suoi bisogni di animale, perché non può leggersi non un bel libro, non può. Uomo, non animale. Siamo tutti magari uomini, però animale. Magari leggiamo un libro in più, guardiamo una serie di Netflix, guardiamo una serie su Amazon, no, Renzo, non lo so, guardiamo Renzo, la 7, capisco, che ti devo la dire? La capisco, non è che io sto 24 ore a leccare, a scopare, ci sto. Ormai a 71 anni ci sto anche 40 minuti, è già un bel colpo. La sessione dura 41 anni, ma che ti dice il cervello? A 71 anni metti tutto in pace. 11 ore, chiudi io la leggo, Claire, chiudi la Claire a 71 anni. Lo sai quanti libri leggo? Io ma leggo no, ma immagino, due libri alla settimana, di tutti certo, i generi, certo. dallo spagnolo all'inglese. Quindi a me sulla cultura nessuno mi può dire niente, perché conosco tutti gli autori, mi piace. No, ma figurati, dico che a 71 anni potresti far passare sta mania e magari dedicarti, che so, alla cucina. Ma meno, anzi, secondo me questa mania va ancora più avanti. Ma scusa, ma altro. Se a 71 anni questo qua vuole ancora chiamare ma e leccare la figa, potrà essere padrone di farlo? Ma io non ho capito. Sarà un bel ricordo. Adesso fermo un attimo, c'è un minuto. Fra un minuto, Carlo, ti invito io a un gran premio con me e verrai a vedere cosa vuol dire. Quando si tornerà? Quando si tornerà? Cambi registro, te lo dico io. Allora, fermo un attimo, tra un minuto mi descrivi la scena, però in maniera, diciamo, alla tua maniera. Cioè, tu chiami, la persona si presenta e poi che cosa succede? Fermi tutti. La zanzara. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Fermo, uso la mucchina, ragazzi, non è un problema. Indovina un po' dove la metto. Secondo lei dove la metto la mucchina? La metto nell'organo femminile. Ma ce ne metti quattro gocce. Io però, caro Carlo, l'utilità della mucchina nell'organo femminile della prostituta che viene a casa tua. Parliamo di gel, non la mucchina dei pavimenti. Sì, gel. Vabbè, certo. Fai partire tutto. E quello fai bruci. Fai partire tutto. Ma che parola è? Fai partire tutto. Va bene, partire tutto è un modo di dire. Fai partire tutto. Sai come sempre precisino. Però voglio dire, due gocce di amuchina, nel senso gel, naturalmente, quello che si usa adesso. A cosa cazzo serve sulla figa una cosa del genere? Secondo me la sterilizza in parte, la rende inoffensiva con questo virus. Ma secondo me no, perché basta dei dirigenti della Confindustria, guarda. Dei nuovi dirigenti. Io sono dispiaciuto e rammaricato. Sì, sono dispiaciuto e rammaricato. Dei nuovi vertici. Ai quali non farei in questo contesto i migliori auguri. Chiedi scusa tu ufficialmente al signor Bonomi. Presidente Bonomi, appena nominato, peraltro, immagino che stasera lei abbia acceso la radio, la sua radio, peraltro, per capire quali sono le ultime news in materia di MES, temi importanti, coronavirus, l'apertura delle aziende, von der Leyen. E invece io le devo chiedere scusa sinceramente, guardi, perché quello che stiamo ascoltando ora, io le assicuro davvero, non ci conosciamo bene. Non c'entro niente. Ma io non avrei mai... Non c'entro niente, è difficile da dire, perché dice lei sta là. No, è difficile dire non c'entro niente, perché sta qua, se no dice perché sto qua, quindi cosa vuole, condivido questa sorte, ma le assicuro che io non affronterei questi temi, magari non li affronterei in questa maniera, peraltro, con un signore che dice di utilizzare la mucchina per questi suoi porci comodi. Pernat fa girare l'economia, Pernat. Altro che fa girare. A me fa girare caro, un'altra caro cosa, Pernat. Io conosco molto bene i Bonomi, perché faccia così, ma non dica il mio nome, faccia così, no, Bonomi, lasci stare. Posso dare una consiglio? Perché dici Carlo? Torniamo alla materia di sua competenza. Era il papà, era proprietario della Ducati. quindi io l'ho frequentato parecchio. Benissimo. E i figli erano appassionati di moto. Ottimo, metta una buona parola con noi. Non so se questo sarà una scriminante. Io credo che ci sono varie domande che vengono dal mondo degli ascoltatori. La prima è questa: un mio amico mi chiede, dunque lei non usa il preservativo quando tromba? Sto usando la lingua che è la cassa di risparmio dell'uccello, una cosa diversa. Cioè, non stai utilizzando, cioè non trombi con queste qua che hai portato? No, le conosco. Ma perché non trombi, scusami? Ma perché questo non lo sto facendo, probabilmente perché sono anche abbastanza messo in quarantena, quindi non ho le forze di farlo, probabilmente. Cioè non ti va, cioè inviti queste persone e le paghi esatto, naturalmente. Vabbè, sicuramente, alcune alcune meno, sono anche amiche da lunga data, per cui insomma so con chi vado, onestamente, per cui dico la verità. Grande cunilingus. Bravissimo, non ci vedo niente di strano. No. Altra domanda da una mia amica, possibile 40 minuti di cunilingus? Sì, ma perché è bilaterale, nel senso che è metà per uno, ragazzi, mica solo a soddisfare. Ah, 40 minuti in tutto, dici? 40 in tutto, minuti. Ora non è che di cronometro, però. Vabbè, però più o meno così. Però siamo su quel livello lì. Sì, però voglio capire una cosa: perché alla fine uno come te non c'è la trombata? Perché non te ne frega più niente? Perché va bene così? Questo momento sono dalla parte di Parenzo. Penso che ho parlato con i miei amici dottori, magari sono dottori putanieri come me, attenzione, mi hanno detto che questo si può fare, il resto è meglio di no. Allora io ho seguito quello che mi dicono i miei referenti che ne sanno più di me. Cioè, ma questo per il Covid, dici? Per il Covid? Penso di sì, ho paura di sì, questo mi hanno detto. Ma oltretutto oggi questa è una funzione importantissima. Ragazzi, ma la gente, come diciamo a Genova, ciocca fuori di testa a stare in casa. Se non si leva seme ritenuto, come dico io, è un bel casino, ragazzi. Io spero che da queste macerie, e ci usciremo, finalmente si riapriranno le case chiuse. Con un certificato di... Non lo so, speriamo, Carlo, non sono così ottimista. Ma per forza, ma come no? Ma è inevitabile, anzi sarà anche un bene, perché ci saranno i certificati dove verranno visitate e andranno a fare. Purtroppo questo è un mestiere che è nato con Adamo ed Eva, è inutile che stiamo qui a romperci le scatole. Le più grosse guerre, le più grosse cose sono state fatte fare dalle donne, Elena di Troia, c'è sempre di mezzo una donna. È inutile che stiamo lì. Questa è la storia, è la verità. Poi dopo ognuno la può pensare come vuole, rispetto a Parenzo che la pensa come vuole, certo. Ma secondo me nella vita c'è una marea di ipocrisia. No, ma non c'è dubbio. Senti un attimo, io voglio capire una cosa. Tu allora chiami queste persone qua e queste persone non potrebbero farlo, però vengono lo stesso a trovarti. Attraversano nottetempo oppure durante la giornata. Pure, non lo so. No, prendono il taxi, è sempre una cosa notturna. Taxi. Ah sì, con taxi, taxi, però effettivamente è una buona scusa il taxi, perché naturalmente nessuno controlla. Do un suggerimento, con i taxi messi di dietro, nessuno controlla. Adesso che l'ha dato pubblicamente controlleranno, bravo, un genio. Controlleranno, pazienza, ma non è che potranno controllare tutti i taxi che sono in la tua preferita, dai. Qual è? Sudamericana, di che nazionalità assolutamente è? Colombiana o argentina. In ordine alfabetico, ma direi argentina. L'una sa dell'altra, cioè questo giro di ragazze sanno l'una dell'altra o no? Non sono gelosi fra di loro, non sono le fidanzate, quindi anzi secondo me più. Ma io non capisco perché delle ragazze dovrebbero andare con questo 71enne arrapato qua. Io questo non capisco. Si vede che ma no, quello sicuro, ma non basta quella roba lì. Ma non è che vengano lì per le. Ah, perché le paga alla fine. ABC sono simpatiche, stanno bene in compagnia. Ah, le paga, non sono amiche allora. Perché chiamarle alcune? Alcune sì, altre no. Le paga. Ma non hai capito ancora questa storia. No, lui dice amiche. Parenzo, le donne le paghi sempre. Questo. Sì, ma le donne le paghi le paghi con qualche soldo, con allora, un regalo, le come, paghi moralmente. Allora, io ho realizzato in questi giorni una canzoncina dedicata all'escort. Ho fatto un piccolo pezzo con l'amico Pupo. Per Escort Advisor l'abbiamo fatto questo pezzetto musicale, un rifacimento della famiglia di Cruciani. Sì. Questa è la famiglia di Cruciani. Abbiamo fatto questa cosa perché in questo momento Pernat è un benefattore in questo momento, perché l'economia. No, ma soprattutto cosa fa Pernat in questo momento? Dà dei soldi a delle persone che non hanno lavoro. Cioè, queste persone qui, l'escort, non è che sono tutte milionarie o guadagnano 10-15 mila euro al mese, sono anche delle escort, ci sono delle escort che sono degli operai sostanzialmente del sesso, guadagnano 1.500-2.000 al mese a seconda della situazione. Dunque lui, mantenendo viva questa categoria con i suoi pagamenti, non so quanto spende adesso a settimana durante poca la roba, poca roba, sarai sui, poca roba. Sui 500 a settimana ci sei o di più, un pochetto di più? Sì, direi di sì, anche un qualcosa di meno, qualcosa di meno. Ragazzi, mantiene vive queste persone qua che magari si possono comprare quello che adesso non si possono permettere, magari perché non hanno come, un cliente. Sono d'accordo, ma io infatti questa qua è un'opera, un'opera di bene, dai, un'opera di bene. E mettere dei sì, far volare un albero, hai capito? E poi, poi in qualche modo ti devi svuotare. Tu la masturbazione non la ami, tra l'altro, mi sembra. No, di io non mi ricordo, infatti ne parlavo sempre con i miei amici giornalisti, che ne parliamo ogni tanto, cazzeggiamo, e dico non mi ricordo di avere mai fatto una masturbazione, mai, non mi ricordo. Ma notizia incredibile, non vuol dire non averlo fatto. Ora, il mio amico Karma mi sta scrivendo, il mio amico Karma mi dice che ti deve portare, grande puttaniere anche lui, ti deve portare al Welcome appena riapre, subito al Welcome in Austria. Ah, beh, a Welcome, figuramente, voi che non lo conosco. È giù, a Welcome era una città sudafricana, se è quella. No, Welcome è a Villach, Villach. No, ah, in Austria. Sì, no, no, perché ce ne due, perché c'era quello storico. Pure in Sudafrica, pure a Johannesburg. Sì, ce n'è uno, sì, una Lakeness molto bella con gli inglesi. Incredibile. L'abbiamo trovati anche a Welcome, che è una città incredibile, è una città senza semafori a nord del Sudafrica. Pure ma là, da tutte pure le parti che vai. Pure, ma ragazzi, io dico solo una cosa, e lo dico a Parenzo con molta devozione, gli voglio bene, è una persona molto intelligente. Sì, ma anch'io le voglio bene, ci mancherebbe altro, eh. Noi stiamo adesso cazzeggiando, ma di cose vere. Sì, no, ma io certo, io le voglio veramente bene, la considero comunque uno sporcaccione, ma le voglio bene. Andiamo va bene, io la considero una persona per bene, magari un po' anch'io, ipocrita, anch'io, non lo so, non lo so. Sì, perché io carità, voglio dire, perché? Ragazzi, ma se non ci fossero i casini, le case, noi siamo l'unico paese incivile o civile, ognuno assolutamente, di noi ha proprio, assolutamente, assolutamente. Che non ha le case chiuse, ma ce l'hanno in Austria, ce l'hanno in Germania, ce l'hanno in Spagna, che sarà un paese chissà religioso. Che, chissà che il coronavirus dopo crei anche l'opportunità per aprire le case chiuse. Ciao, certo, Carlo, a presto. Dalle macerie nasce tutto. Ciao, ti abbraccio, abbraccio. Anche ciao, a voi, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, direttore. Shoot them dead. Vai, vai con gli elicotteri, le mitragliate, le mitragliate, naturalmente, bellissimo, bellissimo. Scusi. Scusi, Freccero, ha fatto qualche altra riflessione su format televisivi negli ultimi giorni oppure no? Cioè, oppure siamo sempre naturalmente con l'occasione per dire che ho avuto un incontro, per esempio, la grigliata, non con la grigliata. I grandi vertici naturalmente della RAI. Per esporre loro che naturalmente un momento come questo difficilmente ritornerà, un momento in cui l'Italia rischia di avere il 150% sul PIL. Terribile. Beh, ho capito, crisi però economica, naturalmente. Lei, malati, lei la vede, ospedali allo sbando, la politica che naturalmente non riesce a decidere, la Cina che la rischia Lombardia di diventare un disastro della la vera padrona di tutto il mondo, sì, vero, il disastro vero, della sì. Lombardia, l'economia che non si riprende. Beh, ma lei per è anni, felice, anni, sembra, anni. Sembra felice. Allora io dico, naturalmente, quando ricapita uno scenario mondiale di grande racconto come questo, quando ricapita, ho detto questo alla Rai, mi hanno cacciato. Naturalmente perché hanno detto che c'è cinismo, ma io dico storie che ogni giorno c'è una storia straordinaria di dolore, morte, di sacrificio, l'economia allo stremo, le banche che non riescono più a fare nulla, naturalmente il MES, la Troica e tutti contro l'Europa, ma dai che fa ascolto questo, una tragedia, una sì, recessione non mondiale, quando ricapita che dal 1900 tutti però hanno detto dai basta con i virus tecnici, dai, non fa ascolto. Io voglio dire, c'è cioè, una telecamera nella casa dei poveracci, per esempio, una telecamera a casa della gente trivulzio, che muore, va a vedere la sua, no, come ma naturalmente, dai, c'è dentro l'ospedale di Milano, un racconto naturale, c'è con gli anziani che muoiono a grappoli, dice lei. Beh, ma non ricapiterà mai più, non ricapiterà mai più, io dico che non ricapiterà mai più, naturalmente, e la televisione deve cogliere naturalmente la realtà. E se non la coglie cosa fa? Metto in uno studio televisivo chi? un virologo, dai, che parla di cose tecniche. Ormai siamo tutti dei tecnici e questo serve, quello no, il tampone, ma dai, il tampone è noioso in TV, se non lo fai vedere è noioso, dai, che roba è? Per cui, parlano di tampone, per cui i vecchi che muoiono deve essere live. Naturalmente l'ho promosso alla Rai e mi hanno cacciato naturalmente fuori con due guardie, naturalmente non capisco perché io credo, tutti dicono che è la peggiore crisi del 1929. Sì, ma lei voleva proporre, scusi, però c'era proposta alla Rai nel 29, non esisteva telecamere... questa televisione verità, sì, deve... dai, non esisteva nel 29, proposto... dai, non esisteva nel 29, ma lei ha proposto alla Rai di mettere le telecamere al tribunzio con i vecchi che muoiono. Ma io ho detto che non ricapita più, dai, non ricapita più uno scenario così, dai, la realtà da raccontare. Domenico su. La Ravenna, vabbè, una cosa incredibile. Domenico, dimmi. Pronto, Way Crux, canzone con Pupo, bellissima. Ma non buonasera, c'è, non è bellissima, allora, non è bellissima. Allora, io volevo parlare di masturbazione. Ecco, sì, un divertissement. Fa sentire, però. È un divertissement. Ragazzi, la cosa è forza escort. In questo momento le escort sono da proteggere. Il lavoro delle escort, diciamo, soprattutto quelle che non guadagnano tanti soldi e che dunque non hanno soldi da parte, è come un operaio qualsiasi. Non capisco perché non c'è una mobilitazione anche per tantissime escort. 9 milioni di italiani vanno a puttane. Forse. E le puttane non so quante siano adesso nel calcolo in Italia, che un paio di, non lo so, non mi ricordo. Comunque, molte sono allo stremo e sono delle lavoratrici. Vabbè, Domenico, che vuoi? Perché volevo parlare di Pornhub e soprattutto dell'intervento che ha fatto il ragazzo ieri di quel tipo di masturbazione. Perché io sono anni che, diciamo, con i miei amici non ne parlo, poi però ho sentito il ragazzo e effettivamente, caro Giuseppe, quella è una masturbazione che funziona benissimo. No, mi hanno scritto tante persone che hanno voluto provare sul momento, non funziona. Dopo lui ha parlato del clan, quelle cose, ma secondo me si tratta semplicemente di una trastullata finché non succede quello che deve succedere. Mamma capito? Mia, che gente. Ah, tu dici una trastullata iniziale. Vabbè, poi che volevi dire? Ma come fa uno a chiamare per dire delle cose? Dato che il mese, per chi come me se l'è fatto, il mese gratuito, no? Il famoso mese gratuito. Ah, è finito sto mese gratuito? Ma grande novità, caro. Cioè? Danno 12 giorni in più adesso. Vabbè, questo a 12 giorni. No, hanno dato 12 giorni in più, volevo dirlo agli ascoltatori, così. Sai che non sono andato manco una volta, io credo, in questi giorni qua. Non sono andato nemmeno una volta. Pensa che quando ti iscrivi ti dice aiuta anche tu ad abbassare la curva epidemiologica iscrivendoti a Pornhub Premium, come se, cioè, è bellissimo. Ma ad esempio, scusami, quanti video ascoltatori fa Pornhub? Dipende dal numero dei video, cioè non credo che ci sia. Sì, ci sarà un dato universale. L'applicazione so. Quanto fa di traffico? Che applicazione? Domenico, non ho capito ancora che cos'è che appare lì. Non ho capito bene. Quando tu ti iscrivi a Premium, che devi mettere l'account email, sì? Ti appare l'icona con scritto abbassa anche tu la curva dei contagi, iscriviti a Premium. Cioè, questa è l'esortazione. E ti dice, come dice quando devi scrivere, io non sono un robot. Ma perché forse danno delle donazioni per questo, perché indirettamente... E tu dici, io confermo che starò a casa fruendo di Pornhub. Ah, ho capito. Ciao Domenico, ciao. Qual è la tua categoria preferita su Pornhub? Qual è la tua categoria? Ma io sono giovane, mi piace fare fantasticherie su ragazze giovani. Teen, esatto, è sempre fermo là. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. La Zanzara. Non sono più capace di innamorarmi adesso. Siamo qui. ostaggi di un pazzo che non vedi, che si sta insinuando nel mio credo. Ma mia ragazza, eh? Ah, cosa pazzesca. Mamma mia, allucinante! Allucinante, fallo ascoltare tutta però questa. No, no, con calma, con tutta, calma. Tutta, con calma. Comunque, ragazzi, la cosa incredibile è solo una: applicazioni, tracciamento, tamponi, test sierologici, mascherine. Cioè, siamo in ritardo su tutto. Magari le mascherine stiamo recuperando. Siamo in ritardo su tutto. E poi abbiamo schierato. Siamo in ritardo. Abbiamo schierato esperti, task force, carrozzoni. Beh, di 400 esperti. Colau, ci sono 400 esperti. Colau ha già convocato il gruppo. Dottor Colau, ma se ne vuole già andare, si è rotto il cazzo già, perché c'è troppa gente, si è già rotto il cazzo. Ma come no? C'è troppa gente, si è rotto i coglioni. Ma quello è un meme. Si è già stufato. Si è già stufato. Quello già ha detto, già o mi dà le deleghe e gli strumenti per lavorare oppure vado via. Ma ha già convocato la sua squadra fortissima. Sì, d'accordo, però scusa, dai. Però scusami un attimo, ma uno che poi si trova un governatore della Lombardia che dice ripartiamo il 4 marzo e lui che cazzo decide allora? Ognuno, cioè, tu capisci sé, che sì, ma sì, dai, sì, ma è ridicolo, cioè la task force guidata da Colau dove c'è pure uno psicologo dentro e il presidente del Veneto che giustamente dice ripartiamo subito, forse anche prima del 4 di maggio, un altro che dice ripartiamo il 4 maggio mentre fino a due giorni prima era un disastro la Lombardia rispetto agli altri. Oh ragazzi, ma chi cazzo comanda? Ma chi cazzo comanda? Chi comanda? Dai, uno se la pone sta questione o no, sì, Davide? Se sicuro, la pone o no? Sicuro. Il governo, ma infatti deve essere il governo, non è che ogni regione va per i fatti propri. Ma purtroppo dai, non ragazzi, è più così, su. Non può essere così, non può essere come dici tu, male, non può essere male, più. Male. Ma è invece finito, deve non può essere così. Fermi, Pappalardo. Pappalardo. Per mettere chiarezza, Pappalardo, senti. Mai come in questo momento noi dobbiamo essere sereni, ho capito, perché no, Tunisi, stai. Questo regime, queste lobby di potere, questi gruppi di potere che vogliono annientare, ridurre la razza umana sulla terra, stanno cercando di gettarci nel panico e in uno stato d'ansia e di depressione, anche chiudendoci in casa. Voi volete uccidere una persona chiudetola in gabbia, chiudetola in carcere, chiudetola in casa. E noi dobbiamo essere in questo momento molto sereni. Molto, ho capito, ma te ne sei andato a Tunisi però per generale. Non è stato a Tunisi, appunto. Le lobby di potere Tunisi, ci vogliono annientare. Non so quanto sereni si stesse a Tunisi, però. Bazzo. Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Quella perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta. Vabbè, questo, vabbè. Ed ecco perché questo è un demente, noi del proprio. Movimento Giulia Arancioni abbiamo fatto una denuncia. Ma quale movimento che si è scattato all'estero? In galera quelli che hanno ammazzato, perché li hanno ammazzato 18.000 persone, perché non sanno governare, non sanno gestire una popolazione di 60 milioni di abitanti. Ebbene, dobbiamo ridimensionare tutto. Il coronavirus è grave. Una normale influenza. Per l'80% la gente guarisce, il 15% sta un po' più male, il 5% che aveva gravi le malattie per gresti avrà maggiori difficoltà, altri invece soccombono, come per una normale influenza. Però scusami, adesso dice che vuole fare la denuncia per l'epidemia colposa. O è una cosa grave? Allora, se non è grave, che cazzo la fai a fare la denunzia? Scusa. Ma questo è l'unico leader di partito che sta all'estero. Quale leader peraltro? Di partito? Perché, vabbè, no, dici di essere leader di un movimento, di un partito. Non lo so, ma sta in Tunisia. È leader di un partito che. È vero che ce ne fu un altro in Tunisia di leader di partito però, in passato. Per altre cause. Cioè. Per altre cause ben più nobili. Quello che vi devo dire è che noi non dobbiamo temere il coronavirus. Dobbiamo temere il pecoronavirus, che è un virus che hanno i nostri politici, che lo stanno, potrebbero trasmettere pure a noi. Questa è la peggiore epidemia, diventare pecoroni come loro, che sono completamente assoggettati alla Germania e alla Francia. Vabbè ragazzi, io direi di passare a sondare lo stato di salute del signor Polegato. A questo punto, giunti a questo punto della nostra emissione, della nostra disgraziata serata, alle 20:25 di male in peggio si va. Però aspetta, prima voglio sentire Enrico da Alessandria. Enrico, dimmi. Enrico. Ciao Croce, senti, io sono, non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Sono morti 120 e passa medici che salvano la vita, non è schiattato un politico. Vabbè, adesso però, scusa, aspetta, voglio sentire Enrico, sì, dimmi. No, scusami un attimino. Tu, un povero vecchino che va a prendere le uova, come ho sentito l'altro giorno, viene multato mentre ci sono i neger, no? I neger che vanno a spacciare la droga. Aspetta un attimino. Tu da un comune all'altro, perché io faccio camionaro, vedo certe cose, le vedo anche in mezzo alla strada. Sì? Tu da un comune all'altro devi avere una certificazione, mentre dall'Africa per venire in Italia da clandestino non devi avere un cazzo. Questo però devo dire la verità. Io non ce la faccio più. Diciamo, no, tu dici mentre di questo stato assente, mi hanno proprio rotto i coglioni, sono stato qua. Però scusami, ha rotto cazzo. Enrico, assente in questo periodo non mi pare proprio, perché anzi molti dicono che è fin troppo presente, soltanto, per cui però scusami Enrico. Ma cosa è presente? Però scusami Enrico, stai dicendo una cosa, cioè avresti preferito, cioè ti auguri che qualche politico schiatti? Questo è il punto. Io non auguro niente, però mi sembra molto strano che non ci siano i tamponi per i medici che lavorano in prima linea a salvare degli esseri umani italiani e li fanno per i clandestini che sbarcano. Fammi capire sta menata qua. No, cazzo, voglio capire. Sono inferocito stavolta. No, allora Enrico, è vero che continuano a esserci un po' di sbarchi, eccetera. Però uno può dire anche sono due cose diverse. Tu dici in questo momento bisognerebbe mettere una barriera, impedire, come avevano fatto, come avevano deciso, poi si sono tirati indietro, no? Certo, se c'era il pelato, la barriera. Da caso non riuscivano neanche i gatti. Caro Davide, lo affido a te col pelato. Lo sai o no? Chi era? No, non riuscivano neanche da casa? Persino i topi scappavano. Ma chi era? Sua eccellenza, dici tu? Sua eccellenza, esatto. Io sono un tifoso di sua eccellenza. Sua eccellenza, signor. Sua eccellenza. A me manda i matti proprio la dicitura, sua eccellenza. Sua eccellenza il cavaliere. Anche cavaliere era. Ma chi è che sta ragliando a fianco a te, scusa Cruciano? Parenzo, sua eccellenza Benito Mussolini. Però scusami Enrico, non ho capito. Non ho preso il Covid quello. Non ho preso il Covid. No, per ora no, grazie. Porca miseria, ma quello lì. Ma per ora no, grazie. Politici, giornalisti, siete tutti immuni voi dal Covid? Sì, tutti. No, i giornalisti capire. No, porno l'ha preso. Il pelato. Porno l'ha preso. Infatti è l'unico giusto che c'è tra tutti qua, a parte il Cruciani. Dunque lei sta dicendo che è un ammiratore più serio. È un ammiratore di Mussolini e anche di Porro, mi sta dicendo sostanzialmente. E di Cruciani anche. Certo, notare però. Bene, e Mussolini, Porro, il filosofo, come adesso mi sfugge il nome, Fusaro, bravi. Quindi le piace Mussolini. Mussolini. Sì, no, ma lo ridica chi gli piace, in ordine, ridica tranquillamente, scandisca bene le parole. Tu sicuramente no, guarda, tu saresti e io la reputo una medaglia, ma andiamo avanti. A lei invece piace, nell'ordine, Mussolini, certo, a lei piace, nell'ordine, Mussolini, mi dica se sbaglio, Mussolini, certo. Giusto? Bene, sì, Salvini, certo. Giusto? Ma Salvini, può essere la Meloni, può essere Fiore di Forza Nuova, non è quello. Fiore di Forza Nuova. Capito? Poi le piace Porro. Perché almeno Forza Nuova è un po' più. Le piace Fiore. Poi le piace Porro, che una volta era un liberale. Porro. Che devono dire. Quello che non piace a me. Cruciani. Le piace Cruciani. Non mi piace Parenzo, perché l'ha detto che puzza, lo sento dal telefono. Mandate per cortesia in continuazione questo audio messaggio. Mandatelo, perché per me è una medaglia questa roba. Grazie, Parenzo. Sì. Prego. Poi c'era anche Meluzzi, se non sbaglio, no? Giusto? Meluzzi. No, Meluzzi anche lui dice le cose giuste, dai, su. Non tiriamo fuori delle puttanate. Sei in bella compagnia, Cruciani. Bravo, complimenti. Scusa, fatti delle domande. Comunque, guarda, Cruciani, io so che sera sono con un collega a mangiare qui in un distributore da cui è chiuso. Sì. Ho mangiato il pollo con le mani come degli zingari, mentre i colorati sono nei hotel che in quarantena col tampone, colorati, che mangiano la roba che noi non vogliamo mangiare e tanta gente ma non vuole mangiare. Fatti delle domande, che questa gente ti adora, fatti delle domande, Cruciani, del perché questa gente ti adora, fatti Enrico delle D'Alessandre domande. Però sta descrivendo una situazione, cioè lui insieme ad un suo collega è una situazione, è un fatto, la realtà si potrebbe ma dire. Ma io no? anche fossi in porro, ma aspetta, sbiancherei Enrico, a sentire queste telefonate. Enrico sta dicendo una cosa, io e un mio collega siamo ad un'area di servizio a mangiare come degli zingari un pollo, non so che cosa state mangiando, cosa avete mangiato. Sì, pollo comprato a Galassia che lo mangiamo con le mani perché non abbiamo neanche il cucchiaio della padella. Mentre, fotografia della realtà, qualcuno nei giorni scorsi è stato accolto dal nostro Stato, giusto caro Enrico? Bravo, è stato in Pompa Magna. In Pompa Magna, adesso non esageriamo. In Pompa Magna, perché chissà come mai non vanno più sull'energia a vedere questi poverini che hanno delle crisi isteriche, delle crisi d'ansia, che si vogliono suicidare. Ismasei su Tis Cristo. E allora sono sbarcati e sono stati accolti, giusto? Nessuna sono stati Pompa Magna c'era, nessuna, non c'era la fanfara, non c'erano i bersaglieri, non c'era il Quirinale ad accogliere, non dica scemenze. Parenzo, c'erano solamente quando Salvini ha bloccato gli sbarchi di clandestini che non hanno fermi diritto. Fermi tutti, a entrare, Enrico, ti abbraccio, ciao, a presto, ciao. Sì. La Zanzara. Oh no, la Mukina è finita. Ci penso io, va. Ecco Mukina. Già la usavo, ma adesso di più. È perché tutto questo allarmismo, che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. La gente... Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già la usavo. Adesso di più. La mascherina no. Già la usavo. Io sono mangiato le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Parenzo. Ma quanto mi ami, dillo a tutto il mondo, tutta la vita. David, quanto mi ami, dillo a tutto il mondo, tutta la vita. Sarò un polettone io, ma voi proprio siete terroni, porca di quella troia maiala. Ma chi è? È uno. Ma chi è quella signora che dice quanto? Ma io non conosco sta signora. Comunque ragazzi è incredibile questo paese, un paese in cui ancora non si sa quanti malati ci sono e non si sa quando e come si faranno i tamponi, i test sierologici. Siamo una barzelletta, diciamo la verità, siamo una enorme barzelletta. Io sono barzelletta. Meno tranchant di te perché è meno tranchant, ma come si fa a non essere tranchant? Come si però fa a non qua bisogna tranchant. Capire come e quando riaprire al più presto, con sicurezza, con tutte le garanzie del caso, immediatamente. Ma se, altrimenti, ma questo è sicuro, perché altrimenti moriremmo, cioè dai ragazzi, comunque non, bisogna convivere in qualche modo con sta roba qua, no? Cioè convivere con sta roba qua. Poi Lombardia ancora non possiamo farlo, chissà per quanto tempo non potremo uscire da questa cerchia, da questa sorta di castello. Vado al manicomio. Sono pronte per essere munte. Sono pronte questa per essere munte. Sì. Stanno qua. Stanno qua, arriva la bomba adesso. Arriva la bomba, amico mio, arriva la bomba. Giulia da Genova intanto, sta per arrivare la bomba. Giulia, dimmi. Beh, più di questo. Ciao. Più di quello che è successo. Tu dici più di quello che è successo. Sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che questo Stato sia una barzelletta. Dai, è una barzelletta, dai. A tutti i livelli è una barzelletta, anche le regioni, mica solo lo Stato, anzi. È verissimo, ma non solo lo Stato, ma anche le regioni. Ma la cosa più assurda, io ogni volta che esce un decreto legge me lo leggo tutto. Il punto è che ora si sta pensando, sai, poverino, chi lavora in nero, diamogli un bonus. Cristo, ma com'è possibile chi lavora in nero? Qua si parla di persone che durante il periodo della NASPI, della quarantena, hanno finito la NASPI, degli stagionali, e non c'è modo di poter trovare lavoro. Cioè, anche volendo, i centri per l'impiego non funzionano. Sì, e ma la questione è un si di chi lavora in nero. Vabbè, ma quello perché no, però chi ha lavorato, che percepisce la NASPI, ha pagato le tasse, paga i contributi e paga anche parte del reddito di cittadinanza di quelli che si lamentano perché lo prendono. Mentre quando è terminata la NASPI in quarantena nessuno dice niente, lo Stato se n'è battuto altamente. Quando è terminata, scusala? La NASPI, è l'assegno di disoccupazione, dopo che hai lavorato un tot di mesi, soprattutto se sei uno stagionale, ti danno qualcosa. Tu in che condizione sei, per esempio? Tu in che condizioni sei, Giulia? Io attualmente sono bloccata perché sto facendo un sacco di concorsi pubblici, però ad esempio il mio fidanzato ha terminato la NASPI perché lui fa il lavoro stagionale, guardia giurata, nel porto, l'assegno di disoccupazione, sì, è terribile, guarda, lascia perdere, sono terribili questi acronimi e tutto. NAFTI, com'è? L'ho terminata, NASPI, è nuovo assegno, tipo, sì, assurdo. Comunque l'assegno di disoccupazione, lui l'ha terminato. D'accordo, tu che lo sai tutto. È il nuovo assegno totale, tipo di... NASPI si chiama. Vai, NASPI. Comunque, l'ex assegno di disoccupazione, niente, l'ha terminato e... I centri per l'impiego non prorogano vabbè, nemmeno. Però adesso questo è un'altra questione. Non si tu a casa tua col tuo fidanzato come va la situazione? Convivete o no? Sì, conviviamo. In realtà io sono scappata più o meno dalla mia città perché ho due genitori anziani con tutti dei problemi respiratori, quindi ho preferito non cercare in alcun modo di contagiarli. Praticamente li hai abbandonati a se stessi, diciamo, questa è la realtà. Ma no, guarda, stanno benissimo. No, sei scappata, da 50 anni, ho lasciato casa libera. Libera, sei scappata dal tuo fidanzato e come va la convivenza col tuo fidanzato? Bene, bene, va estremamente bene. Va bene. Ci arrangiamo con i soldini che abbiamo messo da ma parte. Ma non siete troppo vicini adesso, troppo attaccati, no? Ma guarda, non passate troppo tempo insieme. Io faccio corsi online, lui gioca ai videogiochi e quando ci becchiamo la sera abbiamo un sacco di cose da fare, soprattutto sotto le lenzuola. Cioè, trombate tranquillamente. Sì, senza problemi. Ragazzi, io non so che dirvi. Ciao amica mia, ciao. Ciao. Allora ragazzi, grandi aggiornamenti da casa Saulino, da casa di Paola Saulino, grandi aggiornamenti dalle tette munte. Ragazzi, eccoci qui. Ho fatto un cake party. Ecco, fermi tutti perché bisogna spiegare a Parenzo che cosa significa cake, che poi sarebbe cake party. Che vuol dire, che cosa hai fatto cara Paola? Allora, mi sono completamente spalmata di bianca panna, proprio dappertutto, anche dentro gli occhi, in mezzo ai capelli, proprio mi sono sporcata tutta. Aspetta. In questo momento a terra nella mia cucina c'è un vero e proprio laghetto bianco, perché volevo dare un simbolo di libertà, di azione. Che vuol dire? Nella mia diretta è stato molto eloquente. Cioè, qual era il significato di questa spalmata di panna? Nessuno, una follia, basta. No, aspetta. Ma perché nuda? Si è messa nuda? Eri nuda o no, Paola? No. No, non si può essere nudi. Sì, ma no, nudi, so, ma semi nudi. La libertà di azione può essere espressa in tutta la sua veemenza anche senza togliersi i vestiti da dopo. Ma certo, assolutamente. Eri con la tua solita mise, diciamo, un po' trasparente, come rivestita. Ma in realtà ho anche un pantacollante in questo momento addosso, quindi sono proprio vestita, è molto eccitante perché... Si intravede sempre un po' la fighetta dal pantacollante. Ma io non ho capito, questa è il telefono? Non ho capito, questa al pomeriggio si spalma la panna e si butta in piscina? Che fate in piscina? No, è una diretta Instagram praticamente, dove lei, insomma, essendo lei una, come dire, una specie di... Una performer. Una performer. Cosa fa una matta, mi pare, ma si spalma di panna e cosa fa poi? No, spiegami Paola, che non te non è... Si limita all'apparenza invece di entrare nei meandri della antropologia delle mie performance. Ma dove vuole che entri, signora mia? Ma quale performance? Mica la signora Abramovic. Innanzitutto spiega Abramovic. Io sono molto ispirata dalla signora Abramovic, da Gina Pane, ma da figurati. Orlando, assolutamente. Spiega a Parenzo, Paola, spiega bene a Parenzo innanzitutto che cos'è il buche, che cosa hai evocato, che cos'è il buccache. Allora, che, evocato una spruzzata di biancume in maniera vigorosa su tutto il corpo, da parte degli uomini. Ma no, una cosa, ma tu è una cosa che ami, no? Non hai mai fatto? No, da parte di molteplici persone contemporaneamente, ma con un solo partner per volta, sì. Un solo partner, d'accordo, però due non l'hai mai fatto in due. Tendo ad essere esclusivista, però dove ci sia una passione veramente importante e incontrollabile potrebbe accadere. Però non è accaduto, diciamo, fino adesso. Allora non credo, non ricordo questo. Beh, non ricordi una cosa che uno dovrebbe ricordare, male, ma comunque andiamo avanti. No, ma vorrei spiegare, ho letto recentemente il simbolo della fertilità del bucake, che in alcuni rituali delle culture orientali viene praticato alle novelle spose, capisce? Ma, ma da chi? Però torniamo all'oggetto, qui c'è gente a casa della fertilità, allora, per la propagazione della specie. Allora, mi faccia capire se ho capito bene. Lei, per evocare questa cosa qui, lei è chiusa in casa come milioni di italiani, ha preso un tubetto di panna, ha preso un tubetto di panna, si è spalmata di panna e lo ha fatto tutto in diretta. Ecco, e lo ha fatto tutto in diretta su Instagram. È corretto quello che ho detto? Assolutamente, perché io voglio lanciare messaggi positivi. Ma le sembra una il messaggio positivo in questo caso? Spiegamelo. Cioè, Giuseppe, la vita, la propagazione della vita, la vita, della specie. Sì, un messaggio di speranza. Un messaggio di vita e di speranza per un futuro migliore, fertile in tutti i sensi. Allora, è abbastanza evidente. Dopo la sculacciata, dopo i suoi tutorial di sesso anale, grande felicità. Dopo aver dichiarato che il suo amore per Conte, per il Presidente del Consiglio. Ora facciamo anche le autocertificazioni colorate, visto che sono aperte le cartolerie. Benissimo. Dopo avere spiegato bene perché la sculacciata, voglio ritornare su questa cosa qua, è cosa buona, giusta, nostro dovere, eccetera, eccetera. Adesso la signora Saulino sostiene che, per dare un grande messaggio di speranza a tutta l'Italia, ha fatto questa grande performance in cui c'è praticamente una rievocazione del famoso bucake. Sì. Questo è il punto, no? Fondamentale. Ma lei ha capito benissimo, signor Cruciani, ma io credo che anche lei debba laurearsi in arte contemporanea. Cioè, praticamente dare una speranza in più a questa popolazione di italiani. Sì, bisogna dare una speranza in più, in questo modo tornare a sperare nella eiaculazione. Io dico, stiamo parlando con una signora esibizionista e mezza sporcacciona che si sporca con la panna e fa passare questa per arte. Questo è il principio, la questione di cui stiamo parlando. Esibizionista, mezza sporcacciona, la vita è molto più sporca delle mie performance. Questo è sicuro. Il mio messaggio è solo ed esclusivamente positivo. Ma questo, guarda, ma non c'è dubbio. È la radio della Confindustria, signora. È la radio oggi della è stato eletto il nuovo presidente della Confindustria. Questo lasciamo stare. Signora Saulino, io vorrei chiudere questa preziosissima telefonata dove lei ci ha chiarito anche che è un amante del bucake, però fino adesso non l'ha fatto. Ma invita. Sono un amante del bucake performativo, ma anche, diciamo, del bucake, in teoria del bucake quello vero, quello proprio del singolo partner adoro. Sì, voglio che lei dia un consiglio ai maschi sul piano della masturbazione, cioè come praticarla per non incorrere in errori, ecco, cioè la masturbazione maschile che lei immagino abbia praticato, non su se stessa naturalmente, non essendo provvista di uccello, ma un maschio, lei ama la masturbazione del maschio, immagino, no? Se lui lo fa o se io devo praticarla a lui, la domanda è un po' contorta perché è rivolta a una donna. Qual è il suo consiglio al maschio per masturbarsi al meglio? Questo è il punto. Ma io credo che ognuno di noi conosca in realtà benissimo come toccarsi personalmente, quindi in questo caso è la prima volta che non riesco a dare un consiglio sessuale soddisfacente, perché ognuno conosce il proprio. Cioè, tu per esempio hai già parlato del tuo uso, diciamo, dei sex toys, eccetera, eccetera. Sì, ogni tanto commetti qualche errore nell'utilizzazione di questi sex toys, oppure no? Cioè, nel senso, non si commettono mai errori nel momento in cui si segue lo spirito della libertà sessuale, della vivere, non si commettono mai errori. Semplicemente talvolta si è più veementi durante l'atto della masturbazione, talvolta si è un po' più dolci, anche perché a volte si pratica, io lo faccio su me stessa, la masturbazione per coadiuvare il sonno. Sì. E per coadiuvare, questo è interessante, questo è interessante. Cioè, è una masturbazione molto più dolce, molto più leggera, che talvolta non arriva neanche alla fine, penso un po', perché perché ci si addormenta prima. Cioè, tu utilizzi la masturbazione, questo è molto interessante per molte donne, magari importantissimo. Cioè, per coadiuvare il sonno, cioè tu inizi, non sempre finisci con l'orgasmo. E però no, perché a volte mi addormento, quindi quel rilassamento del mio organo genitale mi porta comunque a conciliare il sonno ed avere una dimensione molto stretta. Senti, come rispondi alla signora a qualcuno che ti ha criticato, la signora Malena ti ha criticato indirettamente dicendo bah, sono delle porcherie, ci sono delle persone che fanno delle cose sull'internet, si rivolgeva chiaramente a te, non so se hai letto. Non ho letto, però qui c'è da preoccuparsi allora. E forse c'ha il coronavirus, perché sintomi mi pare sia la mancanza di gusto. E allora qua c'è da fare un tampone subito, allora, signor Cruciani. Va bene, Paola. Comunque abbiamo dato due cose fondamentali: la vita, abbiamo dato l'immagine della vita con questo tuo questo bucacche, e poi la masturbazione lenta della donna prima di addormentarsi senza nemmeno arrivare all'orgasmo. Ti abbraccio fortissimo. Sì. Ti abbraccio forte. Ciao a tutti, ragazzi, viva la vita! Ridete sempre! Ciao Paola, ciao. Ciao. Arrivederci, signore. Ah, ragazzi. Barisoni gay. Vabbè, adesso questo. Vabbè, questo perché bisogna mettere queste fake news così? Giuseppe dalla provincia di Lucca. Incredibile. Giuseppe, che succede qua? Cosa può succedere ancora secondo te, David? Ancora tremo. Mancano 3 minuti alla fine, li conto proprio con ansia, no? Come dire, dai che finirà anche oggi. Dai che finisce. No, Giuseppe. Un minuto manca. No, due, vogliate, Giuseppe, dimmi. No, i 50 si chiude. Dimmi, tranquillo. No. Allora, buonasera a tutti. Dimmi. Mi volevo ricollegare a quel signore che usa ipoclorito di sodio per dopo aver fatto per fare sesso. In effetti la cosa non è così male, perché l'ipoclorito di sodio con ossigeno attivo sulla pelle è utilizzabile, e c'è un'azienda svizzera che produce questi prodotti, sì, che non sono specifici. Ma uno può anche utilizzare qualsiasi cosa, ma il punto fondamentale è che secondo me non ci si protegge da nulla, questo è il punto. Sì. Cioè, secondo me, però se non altro sono prodotti che nella farmacopea europea sono dichiarati che sono praticamente attivi come percentuale di ipoclorito di sodio ossigeno attivo contro il coronavirus e SARS. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, se mi permettete, è che il 6 di aprile è partita un'informativa che è andata al ministro Speranza, allora? Dai governatori. Ma perché cosa? Non ho capito. Aspetta, te lo finisco di dire. Dai governatori di Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio, sì, dove dà indicazione che c'è un trattamento di aerosol con un prodotto a base di ipoclorito di sodio e di ossigenoterapia che sta facendo ottimi risultati in Svizzera, al San Carlo. Ma per fare cosa? Per fare che? Per trattare il coronavirus. Ah vabbè, ma questo entriamo in un campo molto vario. Entriamo nel campo molto vario. Se ne sentono di tutti i colori. Ciao Giuseppe, ciao. Ora, dato che c'era il modello italiano che qualcuno evocava, leggo una cosa. Secondo uno studio, i 5 stati più efficienti nella lotta al virus sono Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. Vabbè, lasciamo perdere la Cina, non so che dati hanno preso dalla Cina. Ovviamente, secondo te l'Italia dove sta? No, ma dimmi dove sta? Dove sta l'Italia? Beh, ancora è fatto. Non sta si può ancora l'Italia fare una classifica. Ma non lo so per adesso ora, i criteri che hanno utilizzato. Non so i criteri, però fatto sta che in questa classifica l'Italia, rispetto all'Europa, è al 32esimo su 33. Cioè. Al 32esimo penultima, su appunto, 33. 32 su 33. 32 su 33. I parametri quali classifica? Sono? I parametri quali sono? Ma sicurezza sanitaria, efficienza del trattamento, livello di. La fonte. Ma non lo so, già varie cose, è inutile che te lo dico. Varie cose, tutte abbastanza credibili. Vai a leggere, dopo la Spagna, l'Italia è il paese in Europa più inefficiente. Dopo la Spagna, dopo la Spagna. Pasquale da Pavia, vai Pasquale. Sì. Dimmi Pasquale. Allora io lo vorrei l'attenzione su un tema, non so se è stato abbastanza approfondito nel qual è? Dimmi, dibattito pubblico. Dimmi, qual è il tema? Sì, allora il tema è questo, nel senso, come mai non è stata regolamentata la vendita, l'approvvigionamento e la distribuzione dei dispositivi di sicurezza, nel senso che non ce la faccio io, Pasquale, non ce la posso fare, cioè non ce la posso fare. Sembra le domande che fanno, sai, quando interviene cosa, poi a un certo punto, perché in Italia non sono state distribuite abbastanza mascherine, perché non si fanno i tamponi? Sono le domande che fanno in quella trasmissione, non in questa qua dove ci sono le in quella trasmissione dove ogni tanto interviene, dove è il Vietnam, Vietnam della zanzara, della radio, dove interviene la Michele Caruso, la trasmissione della 7 con l'esperto risponde, perché in Italia non si sono distribuite le mascherine? L'ottimo tagadà, italiani, italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Amo quanto mi ami, dillo a tutto il mondo, tutta la vita.